Sto provando un apparecchio, un apparato. Stai provando un apparecchio ma non riesci in aria. Chi sei? Walter, tu sei? No, sono Franco. Franco qua. Ciao Franco, non stai facendo in radio, sei basso in radio. Ma stai provando a modificare qualcosa, un attimo. Prova, non hai radio. Il segnale è buono. Prova. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Sì, il segnale è 9, però radio non ne hai. Ciao, tu. Come mi senti bene? Ma io ti sento bene. Ma io ti sento basso di radio. Non lo so. 9, 9 più 20 arrivi qua, prova. Vabbè, sono col baracchino e... Questo è la 87 che c'è un po' di negozio, dai. Cazzo, guarda, arrivi bene. Aspetta a vedere, guarda a vedere quanto scende così. Quanto è sceso così. Ascolta, può essere perché sto uscendo in orizzontale, che nel tuo dibattito per quello. Vabbè, se stai uscendo in orizzontale, buonanotte, io sono in verticale, è chiaro che il segnale cambia. Ho capito, allora è quella, dai. Hai notato quanto è sceso il segnale dal primo al secondo passaggio? Il tuo? Ehi. Prova. Guarda, questo è il primo passaggio, potenza alta, e questa è la potenza bassa, quanto è sceso? Sì, da 8 a 9. Ah, ecco, va bene. 8 a 9, ma hai detto 9 più 20? No, avevo messo l'attenuatore, capito? Ah, ho l'attenuatore, ho capito. Però non c'entra niente la polarizzazione con la radio. C'è basso di radio, no. Di segnale, è la radio che passa. Aspetta, prova a toccare qualcos'altro. Segnale 9, la radio è bassa, 3. Rispetto a come ti sentivo prima sei molto basso. No, è proprio un altro apparato questo, Non ha nulla a che vedere con quelli che stavo usando prima. Ah, questo è un altro apparato, non ha niente a che vedere quello come ti ascoltavo prima di radio. Ho capito. E allora è basso di radio quello. Questo è un ICOM 725. ICOM 725. Ah, 725, ho capito. Sì, lo conosco. Quello che c'è allo sportellino, K. Ma l'ICOM in AM non vanno. Io ho fatto mille prove, mille adattamenti sull'ICOM che c'ho io, HF, mettendole un sacco di microfoni, adattatori, non c'è da fare. La modulazione rimane sempre quella. Perché non ha processore in AM, capito? Quindi non spinge. Adesso provo un'altra cosa, aspetta. Questo dove l'hai tolto? Chi te l'ha dato? Delle prove in campagna stiamo facendo, non è roba mia, Delle prove in campagna? Dove ci lavate? No, campagna di... Dove abito di me, non sai tu. Ah, l'ho buttato la radio io, 725, tanti anni fa. Però è un ottimo ricetrasmettitore a livello HF. Qualità prezzo, piccolino, va bene. Però in AM non va. Non mi piace la modulazione. Sì, vedo un po' se è cambiato qualcosa. Il mic è l'originale, è il suo proprio. No, è sempre bassa. È una modulazione normalissima, però è bassa, non sta spingendo, no, non c'è niente di radio. Sì, è tutto liscio, cioè. Non so vediamo come aumentarla ancora, boh. Ma l'avevo provato anche io con un adattatore da 8 a 4, avevo messo un Turner, una BV più 5, più 4, Turner più 2, CBE, niente da fare. Poi avevo trovato il sistema con l'MC60 perché ha lo stesso connettore praticamente, e avevo uno libero, avevo invertito i fili per poterlo far andare sull'ICOM, però sì, la modulazione aveva migliorato, andava bene, ma non era soddisfacente come piace a me con il K, capito? Ho capito, là. Tutto bene adesso, non c'è nessuno in frequenza? No, io ero qua che mi stavo facendo l'adattatore per il Turner su questo baracchino, infatti sto andando col Turner più 3, l'adattatore perché non ho altre soluzioni, questi microfoni sono per altri baracchini, allora ho fatto l'adattatore. La modulazione com'è, buona? Io qua ti sento benissimo, ieri stavo facendo un po' di ascolto, ti ho sentito con questo punto hai collegato un detagista, non sbaglio? Sì, vedi, anche la MB più 5 più 4 con questo Alan 87 non va bene, fa questo c'è la connessione del DAC, e se no è un casino. Capito? Allora gli ho fatto un adattatore volante piccolino, giusto per invertire le connessioni, ma se mi dici che va bene la radio è più che soddisfatto. Vabbè, il 3+3 non smentisce mai, ovunque lo metti. Guarda, neanche a paragone, ieri proprio no, uscite meglio col mic originale, quello che stai usando il primo, dai. Con l'altro molto metallico, cioè non sembra neanche più. Sì, sono microfoni, beh, il suo normale è fatto, siccome questo barattino è Colt, c'ha anche l'eco, capito? E quindi col microfono normale va bene, una volta disinserisci l'eco devi metterci un microfono che spinga come acuti, come il Tanner più 3, infatti non avevo dubbi, dai, va bene. No, questa è la tua modulazione, con un po' di passi almeno, questa è nettamente superiore. Anche quando sollevo la potenza, no, aspetta, te la risollevo, ecco qua, anche quando sollevo la potenza praticamente no, la voce rimane stabile, uguale? È un po' troppo forte, però è una telefonata, è chiarissima. Vabbè, se è forte non c'entra niente, ce l'ho a 2, se lo passo di più non esce, Mickey G non è neanche a metà, è a 3/4. Però mi interessava sapere appunto se la modulazione rimaneva stabile, dai. Non è che va in distorsione, va satura, no, rimane uguale. No, io con questa cassa, con questa preparata ti accorgo già. Perfetto, allora aspetta che ristacchiamo, mettiamo potenza bassa, ok. Questa è una bella radiolina, Stavo provando perché siccome sono in vendita, allora sto facendo un po' di controlli generali per vedere se funzionano bene, perché magari capita, mi chiama qualcuno che le vuole, non voglio fare brutte figure, capito? Ecco perché da una a una li sto provando. Questa però è quella che mi piace più di tutti e la lascio per fare due chiacchiere. Aspetta che ho trovato una versione del Mikey che prova a aumentare un attimo. Ma guarda che lì il Mikey che ce l'hai dove c'è quello sportellino, apri lo sportellino, ci sono le regolazioni. Vedi un po', adesso sta dando qualcosa in più, 1, 2, 3, prova. Solleva, ancora ne hai. Così è a manetta, 1, 2, 3, prova, quindi così non posso. Ma così è la giornata notte, così ti posso dare già 4 abbondante, 5 non te la do perché è un po' cupa, però è molto più forte rispetto a prima. Prova a cambiare radio. Aia. No, adesso vai bene. Microfono normale va più che bene. Buonasera. Sì, ho registrato, buonasera. Guarda questo, com'è il di radio? Diciamo che è simile all'altra, più o meno, Non è che cambia molto. Questo è un FT897 della Yaesu. Vedi, sullo Yaesu si può lavorare un po' di più. Va sicuramente molto meglio. Avanti, che è entrato Daniele? Buonasera a tutti, Lu Profeta dalla stazione, buonasera a Claudio e se non è Don Franco. Che sei Gianni? K. K Gianni, buonasera. Come mi stai ricevendo tu da quelle parti? Il segnale è buono, la radio risulta un po' offattata. Questo è per quello che sento io. Ho capito, dai, ti ringrazio. Avanti, Claudio. Ciao Gio, buonasera, ben sentito. Perfetto. Si potrebbe lavorare un po' di più lì, non c'è il microfono da... Però cos'è? 8? Hai detto 8, 5, 7? Ma il quadribanda? Ho fatto 9, 7, sì, è un quadribanda. No, lì c'è entra nel menu, però se pensavo fosse uno di quelli di vecchia generazione. Col Mickey Gain spinge molto la M, rispetto all'Icon va molto meglio. C'è un fatto di regolazione, questo è già in digitale, dai. No, beh, quello lì c'è entra nel menu, sapere come fai, io non lo conosco, quindi non mi permetto di farti fare manovre, lì ci vuole uno che lo conosce bene, fartelo regolare bene, capito? Beh Gianni, buonasera, com'è? Tutto a posto? Bene. Ho sentito, cioè si sente che hai cambiato mic. Niente, adesso è perfetta, brillante. mediosa, cioè medio alta, ti mancano un po' di bassi, però già è molto precisa. Questo è il TNP3, che è quello che si va molto, rispetto all'MP più 5 va molto meglio su questi tipi di radio, capito? Stavo facendo appunto un adattatore dopo pranzo, adesso lo sto provando, sembra che vada bene, soddisfacente insomma, dai, per usare il baracchino, per non stare col microfono normale, capito, va bene, ottimo per la truppa. No, no, è bella squillante, cioè comprensibilissima, chiara, proprio va bene. Poi quello che avevi prima chiaramente spingeva un po' più sui bassi, però ti rendeva la radio, insomma, il suono un po' più grosso, però è questa, a livello percettivo è molto più chiara, cioè mi piace. Sì, ho fatto le prove in cuffie, soddisfa anche a me rispetto al più 4, non posso cambiare la connessione per metterlo diretto, c'ho l'adattatore, non si vede neanche, piccolino. Perché questa è di un'altra radio, quindi non la voglio cambiare, poi se uso quella tocca. Allora mi sono fatto un adattatore universale che praticamente posso usare diversi microfoni, ho già fatto le prove. Va bene, ho capito. Quindi frati, stai dando la pasta gioia con questi vintage degli anni 80, che il 725 io l'ho avuto, ma mi pare che era una delle prime radio che comprai da BM Elettronica, figura di tu, vecchissima come radio, piccolina, quanto un 140, forse anche più piccola, rimane un pochino più alta, però è una bella radiolina, va bene, mentre l'897, vabbè, quella di ultima generazione, quella è un ottimo ricetrasmettitore. No, esteticamente è molto bello, molto bello, c'è anche l'accordatore automatico. Sì, nuovamente calato di radio. Gianni, non per non vorrei che sia io, ma penso di no. Come lo senti tu a Franco? Fra, vieni avanti. Sì, adesso c'è l'accordatore automatico anche sul lato. Penso che sia un optional però. Vabbè, forse è anche il tono della voce che sta usando. Cioè, qua arriva buono, quindi insomma, bene così. Sì, è un microfono normalissimo, è quello originale della casa. Bene, bene, cioè qua sei proprio comprensibilissimo. Ah, per Claudio, questo microfono ti si addice molto per via del, siccome hai un tono di voce molto presente, un microfono del genere ti va molto meglio secondo me. Ma quale? Questo che sto usando adesso? AFK. Sì, beh, io sono entrato in radio nel 1973 e appena erano usciti questi microfoni Turner, li provai e ero proprio perfetto come modulazione, soprattutto col Turner più 2. Ma mi resi conto a suo tempo, già da tanto, che il più 3 è un ottimo microfono, per alcuni baracchini addirittura è anche troppo forte. Questo l'87 viaggia così, non posso darle più gas perché ho neanche a 2 il potenziometro del microfono e neanche a metà, proprio molto meno della metà il mic gain della radio. Però va bene, dai, per fare due chiacchiere. Corri il rischio che se gli dai un po' più di gas va in distorsione, così la regolazione è perfetta. Sì, infatti da solo in cuffie mi sono cercato di darle una calibrazione adeguata, va più che bene. Se sollevo fischia, innesca maledettamente, perché io ho il parlascolta che non si può eliminare del tutto, l'ho messo quasi a zero, però altrimenti fa dei rientri, capito? Ma va bene così, dai, ottimo. Avanti Fra. Ehi capa, no, devo chiudere che mai ti prendo da USPA, capa, dai. Ti saluto e ti ringrazio Fra per l'aiuto che mi hai dato, per i controllini. Ok, a te ancora il mic. Ecco. Ehi, hai registrato il break. Ciao Fra, ci sentiamo, dai. Tante belle cose, io sono in radio sino a, naturalmente, all'ora di cena. Stavo facendo un po' di cosette qua, ci sentiamo. Aspetta Massimiliano che faccio salutare a Gianni e a Franco. Vai Gianni. Ehi a Fra, dai. se rientri più tardi, se rientri più tardi ci sente dopo. Va bene, me ne veda. Avanti Massi. Sì, positivo, va. Lo so, chi c'è? Aspetta, faccio un po', aspetta. Un attimino. Allora. Ok, va bene. Ciao, non so chi stava andando via perché non ho fatto ascolto. Franco, Franco. Ciao Franco, dai, buona serata e buona continuazione di giornata. E beh, Clark, che mi dici? Ti ho mandato la foto. Sono riuscito a farla andare veramente molto bene. C'è l'adattatore, perché le connessioni sono diverse e non le cambio, lascio stare così. Questa è la modulazione, niente, non posso tirare più su perché altrimenti mi innesca, però va benissimo. E beh, adesso fai la prova e tira più su, aiuto. Massimiliano, tira più su, te. Cosa tiro più su? Non lo posso toccare. Non posso toccare nulla, questa è la regolazione. Ma comunque già è buono, là. Mi chiedi come ce l'hai nella radio? Non lo posso tirare più su manco quello. Se lo tocco è, diciamo, a meno 10, a mezzogiorno meno 10. E questa è la regolazione, il turner ce l'ho a 2, neanche a 2, dai. Però mi sono ascoltato, è più che soddisfacente. Ma no, è buona la radio, quella forte, presente. Sì, beh, questa è la misura, non posso, perché non, se non ci fosse stato il parlascolta, allora è diverso, però mi innesca, non posso andare oltre, proprio questa è la regolazione ed è più che soddisfacente per non stare appunto col microfono normale, dai. Però era una prova per fare, per far sì che, per controllare il turner, dai. Perché ho sistemato le lamelline, pulito tutto, ti ho mandato la foto, hai visto lucido lucido. Di Aikifu, da 34, abbandonato e niente, e funziona, perfetto, non innesca, non fa niente. Ok, vabbè, chi c'è ancora in ruota, Cla? Io non è che ho fatto ascolto, ho acceso così e sono entrato a gamba tesa. No, siamo io e Gianni Lubrofetta, no? Poi è entrato Franco, stavo facendo le prove anche con lui, stava provando una radio e basta, solo io e lui ci siamo per il momento. No, io avevo letto il messaggio, mi stavo finendo di biancare con la camera, no? Adesso sono pronto a uscire, devo fare due commissioni, capito, tutto qua. Ascolta, prova a passare invece leggermente, Clari, leggermente il macchinario della radio e aumenta il microfono. Non cambia nulla, Massimiliano, è da ridresso con bugia di rocca in cuffia, non cambia, questa è la posizione. Se abbassi o sollevi e abbassi è la stessa cosa. Questa è la regolazione, Massimiliano, non posso fare nulla. Hai già provato? Sei sicuro? Ora te lo faccio provare di nuovo. Mi sfasi tutto e non ho più gana, Bulumi. Guarda, credimi, non c'è niente da fare. Con le Mickey Gain, se sposto il Mickey Gain, aumentare appena appena, lo manda in coso. Fischia, innesca. Queste sono le posizioni, Massimiliano. Anche se metto il turner a zero e sollevo il Mickey Gain più del normale, fischia lo stesso. Perché c'è il parlascolta? Non riesco a eliminarlo, non c'è nessuna eliminazione, peccato. No, attenzione, l'eliminazione c'è, devi aprire la radio e chiudere tutto il Mickey, c'è un trimmer dentro che ti elimina proprio il parlascolta. Però se tu chiudi il parlascolta ancora, il Mickey Gain verso le 9 e metti a mezzogiorno il microfono, come va? Ma buffonelli, sì, te lo faccio, guarda. Adesso te lo faccio. Guarda. Ecco. Cosa fai? Cazzo. Stai andando al 20% del radio con quel microfono. Non so, ma non posso fare niente, Massimiliano. Queste sono le regolazioni. Io me la sento, a parte il fatto che lo lascio stare così, perché se lo uso poi con l'eco, io devo sentire la modulazione, poi l'ascolto ci deve essere. Anche se sarà difficile, insomma, però quello è modificato e così deve essere, capito? Ma va bene, dai, cosa... Va bene, giusto per non tenere il microfono in mano, la modulazione è un po' più alta del microfono normale, va bene. E non sono così sicuro, no? Che è più alto del microfono normale, però. Se vuoi essere sincero, il microfono normale è più forte di questo. Ehi, vabbè. Non fa niente, Massimiliano. leggermente un pelino. Ha cambiato al giorno alla notte già così, eh? Vabbè, ma non è che voglio fasciare un capo a nessuno, eh. Lo lascio stare così, mi vedi che già innesca. E voi? Già innesca, non c'è niente da fare. Vabbè, Gianni, riprendi. Eia, vabbè. Ne abbiamo parlato molto ieri. Quindi uno, ognuno poi si arrangia con quello che gli gusta di più, giustamente. Io vabbè, il fascino del baracchino secondo me, per quanto mi riguarda, è quello del microfono a mano, poi chiaramente è tutto molto soggettivo. Lo so, ma non te l'hai parlato, no? Spiegato, Massimiliano lo sa, io per ogni radio c'è un microfono a tavola, ma stare con questi microfoni da farlo, anche se la modulazione non sarà un granché, però ti ripeto, è abbastanza soddisfacente, si fa sentire, è un po', magari al 50% sta lavorando, però già va bene, dai. Avanti Massimiliano. Sì, volevo capire se si è agganciato o meno. No, sono sganciato. Aggancia? Così sono agganciato, non cambia niente. Nel senso che la modulazione rimane sempre com'è. No. Oh, si sente più tenuta, no. La modulazione ha migliorato dall'80 al 90%. Come ha detto Gianni, sì, vabbè, ma noi poi si sta sempre con la potenza alta. Per fare due chiacchiere in città è più che soddisfacente la potenza che ha minima, perché minima c'ha 10 watt, quindi già va bene. Quindi va bene anche così, dai, con la potenza alta. Da parte mia sì. Ok, Gianni, tu me lo ascolti. Buonasera, ben ascoltato. Ehi, Amassi, no, va bene, cioè, come sempre, segnale ottimo. Come gli ho detto prima, Claudio, stavo facendo una considerazione sulla modulazione, sulla radio, che praticamente non è più bassa e corposa come era prima, però per quanto mi riguarda preferisco una radio più comprensibile, capito? Quindi per me, per i miei gusti, va bene. Claudio, voglio fare una prova, sganciano qualcosa. Sganciato, beh. Ah, metti il macchinini alle nove, sarà la radio. Ah, piglia le curve, tu, alle nove. Cazzo. Vale, strano. Sembra stranissimo, che inneschi così. Vabbè, va. Alle nove, quando trovo la radio, il microfono. Microfono non lo tocco. Microfono lo lascio sempre così a 2, meno di 2, innesca, ne ho fatto 1000 prove Massimiliano, innesca perché c'è per la scorta. Tu immaginate che sono, la radio è vicino alla finestra, io sono vicino alla porta, perché ho fatto una prolunga da 50 cm, più il cavo del microfono è abbastanza lungo, sono anche distante dalla radio. Vabbè, là, torniamo a quel discorso qua, che modificate così da dove nulla di fa. Va bene, che va bene, ok. Sarebbe stato bello quel tunnel ascoltarlo con quel Ranger, però purtroppo c'ha l'attacco a 5, non si può fare, va? No, ma se non ci riesco, c'è eliminare il down e up e fare un altro spezzone. Non ci riesco, io a verità non ci vedo, no, non fa. Già vai su un'ora va a fare ghiaccio. Quello che mi aveva fatto Gigi è ancora diverso, capito? E allora per non toccare quello, perché mi modifica poi gli altri radio che ho io, il 48, il DAC eccetera, l'ho lasciato così. Ma va bene Massimiliano, dai, mi sono ascoltato, va bene come radio, non è così malvagia. No, non è malvagia, però già lo sai che io peli nella lingua non ne ho. Col più 5, con questa radio si abbina meglio. Per me il tunnel non va bene. Per me è attenzione. Ma sì. sveglia 771, 7 persone mi hanno detto che è Metallica con l'MB più 5, mi c'era anche Gianni, ti ricordi Gianni la prova che stavamo facendo con l'MB più 5 con questa radio? Eia, sì sì, concordo. Portalo a zero quel Mickey Gay, scusa un attimo, portalo quasi a zero. Così a zero. Ecco, così a zero. Ecco, aumenta il microfono. Già, così ha migliorato però, Sì, Massimiliano, sono dei miglioramenti leggeri, però non lo posso mettere, non lo posso sollevare come lo sollevo per dire con un'altra radio. Se io tolgo dall'armadio il Cobra e ci metto questo, con l'adattatore, e allora è peggio di un gappa, non fischia, posso lavorare bene con un potenziometro e l'altro. Ma il Cobra ha messo sopra il 275H, non ci sta, c'ha questa pancia qua sotto, questo lineare, una cosa impressionante in Serrari, ci vuole spazio per usare quella, per provarla. Ah, ascoltarne non l'hai provata, già, la volevo ascoltare, ragazzi, ascoltarne più 3 la volevo ascoltare quella radio, per vedere come andava, va bene, no. E il più 4 invece l'hai provato su questa radio, sei meglio? E il più 4 no, non va, non va bene, Metallica, il più 4 e il più 5 sono, con questa sono metallici. Adesso domani mattina, se no, non vado a Monte Oro, mi metto di nuovo e tolgo sia il Superstar sia l'altra, tranne il Ranger, e riprovo tutte e tre, capito? Sia il più 3, il più 4 e il più 5. Sì, ero proprio curioso di ascoltare il Cobra col più 3, va? Giusto per ascoltare la radio, meno per altro, perché col più 5 è micidiale, col più 3 non l'ho sentito ancora, no? Va bene, va? No? Ci devo fare un casino, ho tolto l'altra base, non ho spazio, un casino, quella radio è, già lo sai com'è, no? La radio deve avere spazio, posto, devo togliere 275H, devo togliere l'altro, appoggiarla con la sua staffa, perché non ci sta da nessuna parte. Hai capito, Fra? C'ha un baracchino che non lo vuole manco trattare la casa in mano. Già me lo so che immaginate. Ma che rendi conto tu? Perché tu Massimiliano lo conosci, ma Gianni non lo conosce, non c'è neanche una Sassari, ma anche i collezionisti ce l'hanno quella radio. È un Cobra GTX, GLX mi pare 200, ha 100 watt in AM e 200 in SSB, fate il conto. E c'ha praticamente, hai presente un B300 della ZG, no? Di quelli grandi. Ce l'ha sotto la pancia, c'è l'amplificatore sotto la pancia, nel pannello della pancia, è una cosa allucinante, devi avere spazio perché c'è la staffa sua molto grande, quindi devi avere spazio per provarlo, l'ho usato, l'ho provato, è una radio eccezionale, è un mostro, no, non una radio, quella è veramente un baracchino serio, però adesso no, non posso metterlo, lo devo organizzare prima, adesso vediamo, stasera non ho più voglia, anche perché che ore sono? Sono già le 6:30, sono già le 6:30, smonto un po' di roba qua sul lato finestra, Massimiliano, quello spazietto che ho, lo metto lì e poi domani magari ti mando un messaggio e te lo faccio sentire. È positivo, là, positivo, vabbè, ok, riprendi già. Eia, per Claudio, vabbè, ieri o avantieri, stavi dicendo che hai messo praticamente degli apparati in vendita online, sono curioso, ma giusto per dargli una sbirciata, sono curioso di vederli, se ti va di dirmi dove li hai messi in vendita. Ma io non sono capace neanche, a parte il fatto che non c'ho Facebook, non c'ho niente, io ho fatto le foto, le ho date a Massimiliano, parla con lui, non so che cosa abbia fatto. No, pensavo che magari avevi la pagina su Subito oppure su eBay, pensavo ad una cosa del genere, capito? No, li ho messi io, già. Guarda tu, se c'hai Facebook, entra su Mercatino Quattro Muri, Mercatino Quattro Muri, quello è il mio mercatino, là, di diciamo che sono io l'amministratore, sono io quello che l'ho creato. Guarda lì e li vedi. Capa, dopo magari centro e gli do, ma giusto così, mi ha messo la curiosità, dopo magari entro e dagli un'occhiata. No, vabbè, ma il Cobra non c'è. No, il Cobra ci vuole una 500L per comprarlo. Insomma, tipo quelle vecchie radio valvolari in legno col giradischi sopra, dai, una cosa del genere. No, no, è di ultima generazione, tra l'altro non ce n'è neanche uno a Sassari, e me ne posso vantare che non ce n'è neanche uno. Ce l'hanno quasi tutti in Cobra, ma non il modello che ho io. Quello è il modello da 200 watt, e li dà tutti, te lo posso garantire. Scommessa qualsiasi cosa, qualcuno non ci credeva e si è spaventato, capito? Quello è versione da 200 watt, c'è allineare sotto la pancia da paura, ne hanno fatto pochi esemplari di quello. No, no, parlavo, mi riferivo come, non come apparato, dico come dimensioni. Ti ricordi le vecchie radio onde medie, onde lunghe, che avevano tipo Radio Marelli, Brion Vega, che avevano il giradischi sopra? Parlo di, insomma, di qualcosa di molto grosso, mi. No, è un baracchino normale, è un baracchino però di stazza abbastanza grande, non so se tu conosci il Magnum, l'S9, quelle radio lì, è ancora più grande di quello, è un veicolare, è un baracchino normale che chiaramente per metterlo in macchina ci vuole posto e ci vuole un bel ancoraggio perché è molto pesante, è un baracchino, non è a cassone, non è base, è un baracchino, è un veicolare però di una stazza superiore agli altri baracchini, capito? Un attimino, Vio Club, vi saluto che stiamo uscendo, va? Al limite, se ci siete riprendo più tardi, ok? Se no, grazie, Gianluciai, qualche messaggio, una moto zappa e tutto a posto, va? Va bene, vi saluto, una buona serata, ok? Ciao Massimiliano, va bene come è uscito, me l'hai vista la foto? Sì, perfetto. Questo Dominghino già l'ha detto, sei cazzo, la porcarità, anche il più 4, il più 5 pulito. Va bene, va bene. Ok, dai Massimi, salutami a Daniela, un bacio a Gaia, ci sentiamo più tardi. Se coincide già ti mando un messaggio, ciao. Saluti Massi. Ok, dai, andiamo a vedere. Ti ripeto, per quella cifra non fa più, è tutto regalato. Là. Va bene così, dai, ciao, buona serata, ciao ciao. E io una volta solo parlo Massimiliano, se vengono con i soldi io la cassetta la apro, se è per regalare la roba rimane dentro la cassetta, non sta chiedendo niente, ciao. Dopo entro e do una sbirciata così per curiosità, vediamo un po' cosa c'è. E molti baracchini ci sono, baracchini seri, da questo che sto usando, dal Typhoon 2, dalla Superstar 3009, il Ranger 2950 che è una bestia bellissima, tutto digitale, ce ne sono tanti baracchini, tre sono colte addirittura, capito? Sono modificati come questo qua, poi ci sono rosmetri, wattmetri, microfoni da tavolo come questo, più 3, più 4, più 5, un sacco di strumentazione, altre cose, un sacco di roba che era tutta dentro l'armadio e ho messo tutto dentro una scatola, però come stavo dicendo ieri, li sto provando perché capita che magari qualcuno ti telefona e ti dice sì va bene ok me lo mandi quello, devi essere sicuro che la radio sia a posto, altrimenti fai una figura di merda, capito? Eh certo, no, non è che tipo ne avvidi la cosa così se sta neanche a testarla, no? Cioè, infatti reputo una cosa giusta, insomma, vedere tutto il funzionamento, insomma, se tutto è in regola e poi una volta che è tutto a posto, allora sei tranquillo e sereno e la puoi smerciare. Sì, ma erano anche da pulire, da testare, da vedere, ce n'era uno con la lampadina dello Smith fulminata, gliel'ho messa nuova, stronzate, capito, aperti, controllati, dato uno spray, potenziometri gracchiavano, quando i baracchini li abbandoni così, ma anni dentro l'armadio, in ordine, tranquillamente in ordine, però poi va a finire che addirittura uno lo devo prendere a colpi per farle agganciare il PTT, e infatti adesso lo manderò da un amico a controllarmelo perché sicuramente c'è qualche saldatura fredda, qualcosa che si è mollata, però una volta che dai un colpettino parte e funziona alla grande, ma non è che io posso mi dire una cosa a pigliarla a coi, ecco perché li sto provando, capito? C'è qualcosa anche di Massimiliano che mi ha dato da sistemare, da pulire, da fare, anni, a tanti, e abbiamo messo tutto dentro una scatola, si fa un blocco, chi vuole proprio venire con i soldi, perché regalare le cose, ne ho regalato tante, Gianni, ma non per rifacciare niente a nessuno, e poi quando è servito a me me la sono dovuta ricomprare perché nessuno mi ha dato niente. Tipico come atteggiamento, quindi ci sono passato anch'io, quindi non mi stai dicendo, purtroppo non mi stai dicendo niente di nuovo. Quindi praticamente è un'offerta a tutte in blocco, così è? Diciamo di sì, se poi nel singolo le offerte sono buone, allora si può anche parlare, però è chiaro che non è che puoi regalare le cose. Se una persona che conosci dice, ma vai, quella è la tua porta di tiro, poi magari dopo un anno, porca miseria, mi serviva quello strumento, non ce l'ho più, l'ho regalato, o un microfono, io ho regalato tantissimi microfoni perché anni fa ero collezionista, ce l'avevo quasi tutti i microfoni, uno di ogni serie praticamente, perché non ne potevo fare di più, però ne ho regalato tanti, e poi alla fine quando ti servono a te, cazzo, non ce li hai, vedi che fischia, ma ci vediamo, l'hai fatto alzare la mazza delle varie. Quando poi non ce l'hai è un casino, capito? Capito. Quindi immagino che hai investito una fortuna. Baracchini ne ho avuto tanti, non per vantarmi, ne ho provato tanti. Poi, perlomeno quando ero ragazzo, dal 74 all'86. Poi nell'86 comprai il primo HF Kenwood che era uscito. Da lì ho anche il 27, uso sempre il Kenwood, no? C'ho il 430, 440, avuto il 140, 680, ma tantissimi altri HF che non sto qua a elencarti, non me ne frega niente, però ho sempre avuto quelle radio per la 27 perché mi soddisfano, sono radio precise, perfette, vai dove ti piace, eccetera. È chiaro che poi la detenzione e l'uso è una cosa diversa. Però Baracchini ne ho avuto tanti. Ne ho, però adesso è chiaro che li fai fuori o te ne fai più un accidente, cosa te ne fai? La gente ci è rimasta. Capo. Presumo che in macchina non tieni niente, no? No, in macchina c'è Marconi, in macchina ho sempre avuto le V e le U come radioamatore, poi mi sono stufato e gli ho tolto tutto anche dalla macchina, non mi interessa. Macchina io baracchino non ne ho mai avuto, non mai che ti parli di antenna, quando uno esce in macchina esce a ascoltare la radio e avere la macchina piena di cianfusaglie non mi è mai piaciuto. Avanti Marco, buonasera. Buonasera a tutti, ho acceso in questo momento, ho sentito Gianni, il profeta che saluto e Claudio, non so chi altro ci sia, dai, ho appena fatto la spesa, avevo anche pressione bassa, quindi ho avuto un attimo, non un mancamento, ma mi sono dovuto appoggiare con Sisemo. Perfetto Marco, no io sono uscito stamattina a fare alcune cose, sono andato anche a Monte Oro a controllare, adesso vediamo se domani mattina ci andiamo a pranzo lì o se rimaniamo qua, non lo so, vabbè. Niente, dopo una mogiana appunto di queste cosette che sto provando, verificando, per darle poi in perfetto stato. Sembra che tutto proceda bene. Questo è il Tane più 3 Marco rispetto all'MB più 5. Come mi ha detto Gianni, penso che vada molto meglio, dai. Sì, rispetto all'MB più 5, sì. Io sempre lo preferisco all'MB più 5, è una timbrica, non malvagiami, poi dipende molto dalla voce, dal timbro della voce. Ma sai cosa hanno scritto gli americani su un loro sito? Stavano parlando di un microfono clone dell'MB più 5, no? Clone, solo che marcava, cambiava la marca, sicuramente sono fatti in Cina e poi li marcano con altri nomi. Hanno scritto che lo ZGMB più 5 notoriamente usciva da schifo, cioè detto da un americano che usano static, tutti metallici, tutti gracchianti, lasciamo stare, capito? Ognuno vanta i propri microfoni. Per esempio la static, io, a me non è piaciuto niente quella static che avevo preso, era proprio una, posso dirlo a parole mie, una gaggata. Sì, l'ho avuto anch'io la static, Marco, però non mi soddisfava, assolutamente, hai pienamente ragione. sono microfoni molto più vanno molto meglio. Sono il più 3, il più 2, l'attacco sempre, lo Shure, vabbè, ho una ragione, però usciva molto bene. E poi ha dato grandi soddisfazioni il Sadelta. Sadelta anche a me, con diversi baracchini, di quelli a Cassone, a Cassonetto, dalla Pazzi della Mondezza, quelli andava molto bene. Però, ti ripeto, no, a me non piaceva la modulazione del più 4, del più 5 ieri o Marco. Questa sta lavorando neanche al 50% perché altrimenti mi innesca. Però la preferisco molto, molto di più come timbrica, capito? Avanti Gianni, riprendi. Ok. Ciao Marco, buonasera, ben sentito. Anche tu con gli acciacchi. Vicciaia e Carrogna, come ti si dice. Piano piano, non si nabizzemmo, però quando arrivano queste cose uno ne prende coscienza e dice cazzo quanto tempo è passato, quindi ci sto passando anch'io, quindi di conseguenza conosco di che cosa farli. Parlo degli acciacchi e niente, io personalmente, vabbè, non sono un addentrato come voi, visto che è da un sacco di tempo che ho mollato tutto. Poi giusto è capitata la coincidenza di trovare questa apparecchiatura abbandonata e quindi l'ho ricollegata e ciccia. Però sono rimasto molto molto molto lontano da CB per un sacco di tempo. Vabbè, comunque adesso siamo qua e bene meda. Ok, dai, avanti Marco lì. Poi la colpa è mia che non ho fatto niente anche per allenare il fisico, per tenermi in forma, diciamo. Comunque Claudio, sai che ci sono persone che con l'MB più 4, naturalmente parlo di microfoni nature non modificati, escono bene. Per esempio Antonello Di Ossi, no, Antonello Barracuda, con l'MB più 4, con gli apparecchi che già escono perfetti di loro, è buona la modulazione, ti dirò, è migliore di quanto esca io ho queste corde vocali brutte, che proprio la mia voce, a parte la mia voce è brutta, quindi qualsiasi microfono li metti è sempre una voce brutta, c'è poco da fare. Mi pare che l'MB più 5 ce l'avesse anche doppio room, ma non esce male, dipende anche molto a quale apparecchio lo abbini. Ok, va bene, qua devo spegnere la pentola sul fuoco e quindi ci sentiamo fra un attimo, dai, riprendete. A proposito di Shure, quello Shure famoso che usciva perfettamente, no? Che io vidi da Mario Nottari 30 anni fa, credo che ce l'abbia uguale Franco di Viale Sicilia, infatti esce divinamente, se non mi sbaglio, Sì, quello grigio col coso che si muove, dove c'è la base microfonica, sì, quello lì, ce l'ho anch'io, però ho ragione, no? Non mi piace, ma l'unico che mi piace è il Tannen più 3, anche perché è bello, nuovo, funziona bene. No, Marco, abbiamo fatto le prove, anche cercando di regolare le regolazioni con l'ottono, con tutte le cose, no? Non andava bene. L'MB più 5 che ho io, che è modificato, io ne ho due, uno modificato e uno non modificato. Quello modificato che ho comprato la Gigi, quello col Cobra che ho io, è una cannonata, funziona a livello di MC60. Però magari mettendolo qua, l'ho provato ieri, mettendolo qua non va, non mi piace la modulazione, la modulazione è troppo... Ho già fatto le prove, lasciamolo così, già va bene. Avanti Gianni. Eia. Vabbè, poi se andiamo a controllare, insomma, capsule microfoniche ne esistono di vari tipi, insomma, dinamiche, a condensatore, piezo, insomma, poi dipende anche dall'uso che se ne fa. Poi per il baracchino questa esigenza di avere un'alta fedeltà non c'è, quindi di conseguenza si usano magari, sicuramente si usano delle capsule con una fedeltà di un certo livello piuttosto che altre, capito? Quindi poi lì sta con l'esperienza e anche con l'occhio e soprattutto con l'udito, possono fare è testare e fare i microfoni, poi una volta si trova il meglio, insomma, tenersi quelle ciccia. Sì, ma il problema microfonico non sussiste per me, perché spingo bene con le corde vocali, la modulazione è buona, quindi qualsiasi evito, anche col microfono normale, la modulazione è eccellente, perché sono io che lo faccio andare. È chiaro che, ripeto, tutti i microfoni hanno bisogno anche dell'adeguamento della radio, dipende anche dalla radio, secondo il microfono che metti magari non va bene, mentre in alcuni sì, io li provo, ne ho fatto tante, il più 4 e il più 5 vanno molto bene con DAC, con altre radio che ho, col Cobra, col 3009 Superstar, col Ranger, col Typhoon 2, ma con questo no, perché questo è modificato, capito? Questo dove c'è il tastino che c'è off, ecco, adesso ce l'ho disinserito, però c'è il parlascolta dentro, quindi non posso sollevare più di tanto perché altrimenti mi innesca, già sento un fruscio ogni tanto. Se invece vado ad aprire la radio, togliere direttamente il parlascolta, e allora posso lavorare un po' più alto col microfono, ma non è il caso, già, capito? Eccomi. Certo, capito. Ma infatti è troppo brutto, va bene così e lascia tutto com'è che va molto bene. Poi giustamente uno che ha con un timbro di voce di un certo livello, chiaramente il microfono lavora nettamente meglio, quindi se la sorgente è buona, poi tutto ne guadagna. Avanti Marco I. K. Allora, microfono ZGMB più 5, tono a 3, volume a 5. Il microfono originale non è modificato, quindi è nature come esce dalla fabbrica. La batteria è ricaricabile, c'è da mesi, credo un anno e mezzo, quindi non so se sia scarica, vedete un po' se va. Claudio, impressioni, sogni, vedi un po' come va. Distanza facciamo, sono 30 centimetri. Ce l'ho preso io il microfono allo scoppio, Marco. Sì, è una bella timica, ma per te è una bella timica, va bene, con quel baracchino lì che non hai modificato va bene. Se io metto il tane più 3 sul 3009, adesso non ne ho voglia di riprenderlo dalla scatola, li ho riportati prima in campagna, poi li ho riportati qua perché avevo dei dubbi su alcune radio, e ce l'ho di nuovo con i mezzi ai piedi, domani mattina prendo e ce la riporto via. Se dovessi cambiare la radio, mettere Superstar con questo o con l'MB più 4 o col più 5, la modulazione è bellissima, perché? Perché è una radio che non è modificata. Quando queste radio tu vai a modificarle, questa era normale, no? C'è il suo tastino off dove c'è scritto ecco, tu tiravi su e c'aveva questo riverbero normale, questo ecco normale, ma quando io tiro su lì c'è tutto il sistema della scheda che praticamente fa sì che la radio diventi un bolide e quindi non puoi usarla, capito? Non puoi usarla, come mi stava spiegando Massimiliano, perché non c'era uguale, devi aprire, togliere disinserire praticamente il parlascolta, allora il microfono non innesca, ma quando tu vai è come che ti metti le cuffie, no? Quando io vado a sollevare il mic gain e il potenziometro del volume microfonico, ti innesca perché c'è un rientro all'interno, capito? È come tu ti metti le cuffie, ti avvicini al microfono, fischia, per forza fischia, perché la voce sta passando tramite una colonnina esterna. O sbaglio, lo profeta? KK, no, vabbè, adesso per Marco il suono, la radio è perfetta, va benissimo. Se ha la batteria presumo che sia un microfono preamplificato, no? Sì, ZGMB più 5, microfono da tavolo preamplificato. Conta una cosa, anche se io lo mettessi a 10 di amplificazione, ci sarebbe sempre il collo di bottiglia adatto dal baracchino che, essendo omologato, ha il trimmer della modulazione M parzialmente chiuso. Non so se sia due terzi, metà, capito? Il baracchino fa da collo di bottiglia. Se fosse un baracchino non omologato con la modulazione completamente aperta, allora volerebbe. più che altro mi interessa il tono. Aspetta che ve lo porto a 10, anche se è inutile per via del collo di bottiglia. Ecco qua, adesso è a 10, distanza sempre 30 cm, la batteria spero che non inneschi, perché se innesca la batteria è scarica, K. Mi interessa soprattutto la tonalità più che il volume, K. Claudio, vai tu? Per me è ottimo, anche se la metti a 10, va bene, non ci sono problemi, Marco. Ti ascolto divinamente bene, ottima radio, preamplificata non eccessivamente, ma con un bellissimo effetto presenza. Gianni. Va benissimo, vabbè, come l'ultimo pezzo, l'ultimo passaggio, cioè questo è l'ultimo passaggio finale, quando hai dato un po' di gas, si è leggermente più irrobustita, ma la differenza è veramente poca. Non c'è stato questo grande divario tra il prima e il dopo, quindi va bene così. Ehi, va bene, dai. Pensa, Claudio, che questo microfono era dentro la scatola, era sparito dalla vista, era proprio dentro la scatola col polistirolo, le istruzioni, mi pare anche lo scontrino ci fosse. Figurati quanto lo sto usando. Poi la batteria è di quelle da 8 e 4 ricaricabili, no? Quelle che teoricamente da 9, no? Quelle rettangolari. Dovrei caricarla per fare... ogni tanto va ricaricata comunque, dai. Va bene. Comunque sì, il bello di bloccare la leva, il PTT no, mette il blocco, si ha mani libere, quello è apprezzabile. Ok, beh, fine prove, mi interessava sapere se funzionava almeno, dai. Va bene, cosa volevo dirvi? Niente, riprendete, dai. Non è entrato nessuno, no? No, negativo, non è entrato nessuno. Infatti, come dicevo Gianni, più di tanto che fischia, vabbè, il bello appunto del microfono da tavolo so quindi, no, che lo usi a mani libere, mentre quello lì devi stare con questo microfonino sempre, ma vabbè, avanti già, riprendi. Eia, ma volevo dire una cosa a Marco, me ne sono dimenticato. Vabbè, quando mi torna in mente già già te lo dico. Adesso magari un altro momento, c'è un altro piccolo apparato che mi ha regalato un amico l'anno scorso, ce l'aveva piazzato in un camper anche lui, ed è, forse l'avevo detto a Marco, un piccolo Midland molto, molto a sogliola, diciamo, abbastanza piatto, un 40 canali AM/FM con microfono piatto e con il commutatore dei canali anche sul microfono. L'ho acceso un paio di volte, ho visto che andava, però ogni tanto praticamente non commuta dall'AM all'FM. Adesso provo a smontarlo, vediamo un po' cosa riesco a combinare. E come mai non commuta? È strano. Come mai non commuta? Lì, ma anche quello lì era molto fermo, cioè non lo stavi più usando. C'era questo mio amico in camper, praticamente ha smontato un sacco di roba dal camper, perché praticamente ce lo ha riarredato a misura, praticamente ha fatto delle modifiche, praticamente ha trovato nel cassettino c'era il microfono, c'era il baracchino, e visto che a lui non gliene fregava più niente, ha preso e me l'ha regalato. E c'è il commutatorino praticamente nel frontale, e AM/FM che non fa più lo scatto, praticamente sembra che sia diventato un pulsante, capito? Quando lo schiacci praticamente non si incastra, praticamente torna indietro come un pulsante in sostanza, e quindi non riesco a bloccarlo in AM. Lì dovresti cambiare quel commutatore, vedere un po' che cos'è. No, io poi baracchino, capisco, non ci niente, non so. No, questi me li ho solo tutti puliti, protezione delle cose, ti lavate, insomma, sistemati anche li vedi, cambiato la compagnia allo Smith, ma non li ci può mettere le mani dentro. Questo è stato fatto fuori, modificato, quindi ce lo vedi dentro e sto pieno di roba, non so ma che roba sia, figurati. Vabbè, importante che funzioni, dai, grazie a tutti. E quindi non lo stai usando praticamente quello lì? No, l'ho attaccato una sera, ho visto che stava andando, ho parlato anche con Marco. Vabbè, avevo ancora l'antenna sulla finestra e quindi magari cioè, il segnale, no, la qualità non, insomma, era quello che era. E poi ho visto che aveva questo problema e non riuscivo più a farlo entrare in AM, e allora l'ho staccato e ho messo quell'altro più vintage, quello vecchio che va sempre bene. E c'ha lo Smith un po' ai cazzi suoi, insomma. Chissà quanti anni vai, che cosa. Comunque dai, non diciamo niente che sennò magari si magari si prende male e si spegne, ragazzi. No vabbè, scherzo. Va bene così, adesso lascio attaccato questo e poi se ne ho voglia quello l'altro lo apro e ci metto le mani. Io a volte io ho trovato, c'era questa scatola, c'era questo zio, ogni domanda cos'è la cosa? Apro e dentro c'è praticamente un baracchino che poi mi ho comprato a Fusaro, bellissimo, che c'ha tutto dal microfono, c'è il microfono molto grande, c'ha il cambio canali, tutta la tastiera, parli e ascolti da lì, tutto, c'è praticamente solo l'unità con un metro e mezzo di cavo, è tutto bellissimo, è come un veicolare praticamente VHF, così, come dimensione, però è molto bello perché c'è tutto questo microfono grande che comanda tutto da lì, è ancora dentro la scatola, non sapevo manco di averlo, figurati tu, ed è, si chiama Zeus, o Zeus, l'avevo preso a Fusaro, e niente, una cosa da a 4 centi. Non ho manco provato a vedere se funziona, se esce bene. Però è bello come scelto questo microfono illuminato. E fai tutto da lì, qualsiasi cosa. Praticamente è come che abbia un baracchino portatile in mano, capito? Lafayette Venus. Ah, Venus, non Zeus, abbaita, io mi pareva di dire Zeus. No, no, Venus, sai chi ce l'aveva tempo fa, penso l'abbia ancora, Bombolo, Antonio Bombolo. Sì, praticamente c'hai un box nero, una scatola nera, scavo spiralato che esce e poi c'ha tutto sul microfono, solo che se poi dà problemi il cavo, no, farsi con, sai, il cavo si può rovinare, lì comandi tutto da questo... C'ha il display sul microfono, tutto da lì comincia, cioè io preferisco i baracchini classici, detto tra noi, però è carino, molto carino, per chi non ha pretese, che se lo mette sul camper ce n'è d'avanzo quello, anzi un giorno che hai tempo dovresti almeno provarlo e sapere se esce bene, se funziona tutto bene. Naturalmente è inutile dirti che si può migliorare anche la modulazione, ma a quello non se la futti nulla. Ok, io faccio una breve pausa che adesso mangio qualcosa, dai. Mi la tubercolosi, mi. Cazzo la tubercolosi. Sì, sì, no, no, l'avevo provato, ma tanto tempo fa. Poi era una cosa che no, per carità, cioè, ma poi c'è un chilogogio, ma è un barragione il microfono. E quindi l'avevo messo a parte, ma ti giuro non mi ricordavo neanche di averlo. Bellino, nuovo, dentro la scatola, Venus, sì, non Zeus, Venus, Lafayette Venus, io ragiono per Lafayette Zeus, Venus, e fa infatti tutto dal microfono, c'è questa unità staccata e fa tutto dal microfono, però anche io preferisco le cose più così, dai, va bene. Caro Gianni, è così, cosa spesa e buttata dentro gli armadi, ma se ti faccio anche non ho il tuo numero, non sei su WhatsApp, altrimenti avrei fatto la foto di cosa c'è dentro questa scatola da paura, canti di una lampada, sono dei Rosmet della ZG3, uno da incrociati, due no, H raccordatori, palle, poi farà nuovi lì buttati dentro questa scatola, per carità. Eia, immagino. Sì, mi ricordo vagamente quell'apparato che stavi dicendo, il Venus, con l'unità centrale praticamente abbastanza anonima, e poi tutte le funzioni sul mic. Sì, l'avevo visto da Fusaro. Sì, particolare, poi chiaramente è stato usato, cioè è stato studiato sicuramente per un certo tipo di impiego, magari per camionisti, camperisti, insomma gente che doveva avere praticamente le funzioni principali sul mic, quindi sicuramente è stato studiato e progettato per venire incontro a determinate esigenze. Sì, mi ricordo, l'avevo visto, infatti mi era rimasto in mente questo, il microfono Barrazzone. Se vuoi ti posso dare il numero di telefono qua? Se me lo dai me lo segno così ti metto su WhatsApp, almeno sono, così ti faccio uno squillo e ti memorizzi anche il mio, visto che ci sentiamo, ci scambiamo due cose, mandare qualche foto è sempre bello. Ma quando io avevo preso quella radio da Fusaro, mi aveva detto proprio Antonello che era stata una richiesta specifica, perché appunto, come hai detto tu, molti camperini e la mazza che te ne va, non mi sono manco avvicinato che esce la passione, molti camperisti e gente che appunto aveva la barca, che aveva la possibilità di mettere l'antenna insomma anche per la barca, per la 27 eccetera, avevano fatto la richiesta se c'era la possibilità di avere una radio del genere. Quindi Antonello l'aveva trovata e le aveva ordinate, dice che ne aveva venduto parecchi, ma ti parlo sì, avevamo già in euro, quindi io lo pagai neanche 100 euro, è una cosa del genere, 90 euro mi pare che veniva, capito? Però per come è fatto, per come è semplice anche da usare, l'unica cosa è questo microfono che devi tenere, che è un Barrazzone, capito? Mandami il numero di telefono già, aspetta che mi tengo pronto. Allora, se ci sei inizia a mandartelo, così te lo segni. E niente, allora 349 2 1 0 3 368, ripeto 349 2 1 0 3 368. Ok, 349 210 33 68. Vabbè, adesso ti faccio lo squillo, così ti memorizzi anche il mio, ok? K, sta squillando. Vabbè, non rispondo. No, beh, puoi anche rispondere. Ho bloccato. Adesso me lo memorizzo. E ci metto Gianni, anzi ci metto Lubrofetta, ok? Perché di Gianni ne ho altri. Sì, fai così, è meglio. Sì, adesso me lo memorizzo, così ti metto su WhatsApp. Ci sei su WhatsApp, tu sì? Sì, c'ho l'applicazione, sono su WhatsApp. Perfetto, aspetta. Oh, perfetto, salva, ecco qua. Adesso ti ho messo Lubrofetta. Oh, Lubrofetta. Trovato? Sì, aspetta che ti controllo su WhatsApp, dove sei, con chi sei e sempre sei. Allora, mi pare che sia questo, vediamo, aspetta. Perfetto, ti ho messo su WhatsApp. Bene, Mera. Adesso ti mando un messaggio in modo che ti metto nella lista. Ok. Aspetta, mi gioco a fare dei gulibicitti. Ascolta, io stamattina mi sono affacciato dalla finestra di casa dei miei e praticamente mi hai detto che hai la casetta lì a Monteoro. È sotto al pilastro praticamente, al serbatoio dell'acqua dove c'è il ripetitore RAI, sulla sinistra a una cinquantina di metri, presumo, c'è una casetta arancione. Ma di quella stai parlando? Casetta, non è tanto casetta, no, a parte il fatto che è rosa ed è un piano rialzato. Si vede salendo dal carica, si vede già. Guarda, io, cioè, praticamente stiamo parlando del palazzo degli ex ferrovieri, sono all'ultimo piano, quindi c'è una casetta, adesso io l'ho vista arancione, poi guardandola meglio non lo so, comunque c'è sotto la traliccia della RAI, sulla sinistra vedo un caseggiato arancione, non so se... ho detto, magari è quello di cui mi stava parlando Claudio. No, è sul rosa. Si vede anche la mantovana alta, perché lì c'è una veranda sia sopra che sotto. È 50 metri proprio dal traliccio. È 50 metri visto là davanti sul lato sinistro, capito? Già si vede. Ok, adesso ti mando la foto della radio che, visto che sei su WhatsApp, ok? Allora, la foto è questa, ed è quello che, ecco, sta volando, ecco, e c'è anche l'inserzione. Ehi, adesso, vabbè, ho appoggiato il telefono da un'altra parte, aspetto che arrivino i messaggi, poi li guardo con calma, sì, sono così il telefono adesso, due messaggi, ok. Adesso ti mando la mia foto. Io maniato hai, Marco lì. No, chi è? Non stai uscendo del radio, chi è? Hola, vediamo adesso? Sì, adesso sì. Allora, c'era la batteria carica. Vediamo un po', 1, 2, 3, questo è il DM1000, DM1000 settato a manetta da dentro, la modulazione sarà un po' più con toni bassi. Non sta uscendo quasi, vedo pochi picchi, c'è qualcosa che non va. No, infatti mi manchi di modulazione, non lo so perché. L'hai vista? Quella è metà della sala radio, perché l'altra metà l'ho già smontata, Gianni. Ehi, aspetta, ho preso il telefono in mano, stavo caricando, una mano faccio il microfono e lascio il telefono. Ehi, vai a mollarlo, guardatela. Quella è una parte, perché l'altra parte l'ho già tolta. Tolta, portata via, l'altra base. Se no era AL, quella è solo la parte centrale dove c'ho le radio HF e le VLU, basta, non c'è altro. Nella postazione della Guardia Costiera. Allora, come era prima, la Guardia Costiera era, solo non vale più la pena, poi devo cambiare postazione, no? Mi sto già organizzando, ho già tolto tutto quello che non serve. Prova Marco, fammi sentire questo DM1000. Sì, praticamente devo parlare da vicino perché scarica anche la seconda batteria. Purtroppo una è Energizer, ma c'era da secoli. Questa è una batteria di Lidl, ma non spinge, me ne accorgo. Ricordati sempre che c'è il collo di bottiglia del baracchino. Però sta salendo poco, lo vedo. Ok, la timbrica da vicino si dovrebbe sentire, più o meno. Poi c'è il solito trucco. Mettere a 3. Oh, vediamo se si sente il lecca lecca appena. Prova. 1, 2, 3. Cazzo, già ero qui Petronio. No, quello ero io. Il bip poi già c'è. Vabbè, funziona, punto. Le batterie. Comunque queste ricaricabili ne ho due, le metto in carica, dai, meglio averle a portata di mano. Cariche. Tappa. No, va bene. No, non c'è problema Marco. Ottimo per la truppa. Va benissimo alla grande. Solo che devi usarlo anche tu, perché poi vedi alla fine, io sai che ci hanno dovuto fare per l'interno più 3. Aveva le lamelline completamente tutte ossidate, le ho pulite tutte con la tela fine. Le ho dovute tutte piegare leggermente per far sì che il contatto del PTT fosse regolare, perché prima gracchiava. Era tutto messo male dentro, veramente. Ma ti giuro io non. messi lì da parte, messi lì da parte, bisogna usare le cose, sennò è un casino. Sì. Purtroppo le batterie a uno sette giorni o a lasciarlo fermo si scarica. Poi ci vogliono batterie di qualità. Questa è una di Lidl, come si chiama? Quelle Auma Uma. Aerocell. Cioè costano un euro, valgono un euro giustamente, le Duracell costano 4 euro, quant'è, ma durano 4 volte tanto, K. Vabbè, bastano questi amplificati. Invece lo ZGM95 da Palmo non lo trovo. Ho la Giubesso e me la Nivuraddu. A volte ne Nivuraddu. Ma può essere che te l'hanno rubato. Cosa ti hanno rubato? Cioè, se sei lì a casa, cosa ti hanno rubato? Eia, no, ma infatti a casa, buttato in qualche angolino. Avanti il Fischio, buonasera. Avanti, chi è che vuole entrare? Il Fischio non ero io, voglio entrare io. Ciao Claudio, ciao Marco, mi sembra che c'è anche Gianni, se non sbaglio. Ok, buona serata a tutti e tre. E sono qua, vai, riprendi. Ciao a chi ha salutato, ciao Giù, buonasera, ben ascoltato. Tienimi informato, cosa sta facendo il Milan? Non lo so, non sto guardando la partita, non la sto guardando. Non hai mai dato nulla, manco io, ho visto l'Inter ieri sera col Cagliari, o meglio, ho visto il Cagliari e non l'Inter, e quindi sono rimasto più che soddisfatto. Il Milan speriamo che vinca per superare di un punto l'Inter. Ok, ti ripasso il cambio, c'è Gianni lo Profeta e Marco, stava provando un DM1000, a te cambio. Ok, ciao Gianni, sì, allora avevo individuato bene, sì, vabbè, sto usando un baracchino adesso, già sta uscendo, no, la batteria non è buona comunque, ce l'ho da tanto tempo, ma comunque già sembra che funziona, vedendo i picchi positivi della radio. Va benissimo, avanti Marco. Ciao Giulio, ben entrato, altro che amplificati, metto quello normale, è quello che preferisco in assoluto, così disturbo meno, splattero meno, anche se ormai non c'è nessuno da splatterare, detto tra noi. E poi le batterie sempre scariche, perché io giustamente non usando gli amplificati, le batterie si scaricano. Alla fine li ho comprati per prova, così per sperimentare, ma alla fine non me ne posso nulla, faccio prima vendermi di tanto mi. Sono 9T2, MB+5, DM1000, ZGM95, lo stesso. No, però preferisco non avere problemi di TVI né niente. Bello, 4 watt, omologato. Oh, c'ho anche il filtro anti-TVI, aggiuntivo per sicurezza. Quello buono, non quello ZG. Sto tentando di finire di mangiare, perché la trippa con le patate era bollente, mi ha usciato le labbra. Vai Giulio. Ah, c'è un'altra persona, fatela venire avanti, dai. Avanti chi è? Buonasera, però se non è che ti sento molto bene, ad ogni modo vieni avanti, dai, col tuo nominativo. Ti vogliono per te in questo momento, sono io Giulio. Sì, ma che sei? Io non ti sento molto bene, ripeto. Ad ogni modo, se tu parli lentamente e con una voce un pochino più alta, sicuramente riesco a capire anche e a sentire come ti chiami, ammesso che tu me lo dica. Ha detto che si chiama Elisabetta, ma non ho capito dove sta modulando. Ma è da dove? Gianni, ma sta modulando da casa tua? Negativo. Chi è Elisabetta Canalis? Non lo so. No, stai andando bene Giulio, ottima modulazione, per il baracchino tuo funziona sempre bene. Io ti posso ridì, dalle 3 ho finito alle 5 per fare un adattatore per poter usare questo Tarnet più 3 sull'ala 87, che sto usando anch'io il baracchino. La paura, proprio cieco. 9 vengo, 9 nuda la va. Ok, vabbè. Piano ci adattiamo quando abbiamo poi. Il fatto è questo, che non abbiamo più la pazienza di una volta. I 20 anni sono passati per tutti qua. Per cui il problema è quello, vabbè. Adesso magari la settimana entrante vado alla radio, poi mi faccio tutto il gruppo di anni, vediamo un po' se me lo fanno qualche sconto. Dove ventiglie. E indovina che cosa sto usando io, avete considerato che ti ho detto che ho un baracchino in questo momento, indovina cosa sto usando. Che tu ne hai tanti, non lo so. Cosa stai usando, il Cobra? No, no, no, tu lo conosci bene questo. La fogliata KB23 stai usando? Sì, però la batteria è vecchissima, no, non è molto buona. Comunque già vedo che mi state rispondendo, significa che mi ascoltate. Bella modulazione, pensavo stavi usando quello tuo che usavi, dai, prima del K. Ottima modulazione, ma quello non c'è da fare. Vedi Gianni che parlavamo poc'anzi di vecchi baracchini, tu considera quel baracchino, io l'ho avuto che ero a casa di mia madre, quindi sto parlando forse del 76-77, che lo comprai da Pinto Cescarpa in via Cavour. Conta quanti anni ha quel baracchino via Giulio, 23 canali, ma è eccezionale, ricevitore e trasmettitore da paura, e li metti qualsiasi tipo di microfono e lui viaggia alla grande. Penso che stiamo usando qualche altro baracchino. Ottima radio, Giulio. Ok, la KB23 non si smentisce mai, è stata sempre un ottimo apparecchio, per cui anche se datato è sempre andato molto bene e questo va a meraviglia ancora. Nonostante, ripeto, la batteria non so sino a quanto mi regge, perché sto usando il suo microfono che mi avevi dato, e pertanto finché regge la batteria mi sentite, se no devo cambiare ancora. Avanti Gianni della stazione. Eia, ciao Giulio, ben sentito. Qua mi arrivi un po' deboluccio rispetto alle altre volte. Adesso non so se hai cambiato radio, ma presumo di sì, a quanto ho capito. E niente, ben sentito. Vabbè, per Claudio, complimenti per la stazione. Adesso stavo guardando meglio le foto con gli apparati e... Bella roba, complimenti. Io vedo che sono tanti anni di sacrifici, quelle sono le radio HF, ma ti ripeto, la foto è praticamente la prima base che proprio Giulio, che è qua presente, ha costruito, progettato lui, l'altra l'ho tolta perché l'ho già portata via e lì su quell'altra base ce n'era altrettanto, quindi non è neanche completa, ho lasciato le cose essenziali che mi servono, però tu sai che essendo radioamatore quella radio devi averla e quindi è così, altrimenti non è che ti puoi mettere a riempire la casa dei baracchini e baracconi, sono le radio che servono per fare attività amatoriale, anche se sono spente come vedi. Ok, sì Giulio, ma quella poi in particolare, guarda, ti dico che a parte il valore effettivo che ha, ma ha sempre funzionato bene e non ha mai avuto una riparazione quella radio, mai, poi mai. L'unica modifica che mi ha fatto Gigi è il connettore, perché ogni volta tiravo e mi si staccava il suo originale, allora Gigi me l'aveva messo a 4 punte, capito? E basta. Se quel microfono lì, quello con la rotellina, stai pur certo già non ti lascia a piedi. Io a volte ci modulavo e boh, mi dimenticavo che la batteria esisteva, perché sono quelle batterie piccoline piccoline, però funziona bene, veramente una bellissima radio. Ok, va bene. Riprendi tu Giulio, boh, questa Elisabetta non ho capito chi è e da dove sta modulando, se è a casa di qualcuno, non lo so, boh, io non l'ho mai sentita, non lo so, aspetta qua c'è Locke, vai Giulio. Sì, un attimo la portante, ti faccio entrare subito. Sì, beh certo, il microfono è quello sempre, dinamico, c'è scritto anche sopra il microfono, un microfono dinamico, praticamente non è che sia proprio amplificato, però è dinamico e va più che bene. Lo sto usando in questo momento, lo sto usando a 8 di costo. Vediamo se aumento, se ce la fa la batteria. Ecco qua, adesso c'è addirittura 10, però non so se ce la fa la batteria, probabilmente così incomincia ad andare male, perché non c'è molta carica di batteria. Vabbè, vediamo un po', avanti, chi è che vuole entrare? Buonasera, avanti, dimmi chi sei, ti ascolto, avanti. No, parla vicino al microfono, se no non ti posso sentire bene. perché di segnale sei bassa, però se tu parli vicino al microfono sicuramente ti ascolto. Avanti, ripeti. Hai detto che ti chiami Elisabetta, va bene, poc'anzi Claudio, l'amico che è qua con noi in questa ruota, ti ha chiesto da dove stavo arrivando, così tanto per avere, non è che vogliamo l'indirizzo di casa e il numero civico, assolutamente no, però grosso modo, tanto per farci capire, siccome il segnale è basso, per diciamo farci un'idea più o meno. Avanti, avanti, se vuoi ancora riprendere, così ci dici da quale zona stai modulando, non la via, non ci interessa la via, la zona. Ah, è col camper, Giulio. Ah, col camper, ho capito, io lo dicevo basso di segnale, per cui ecco, ho capito. Però mi sembra che in compagnia anche, salutoni anche all'amico che è con te, evidentemente. Ci vanno avanti, Marco, avanti Marco per Elisabetta, se l'hai ascoltata. Marco è Magnendi, adesso con Elisabetta, Sempre Magnendi, dito Marco, è bobo. Vabbè, allora ti mando avanti Gianni per Elisabetta. Capa, proprio molto bassa, in mezzo al rumore di fondo, non riesco proprio a tirarla fuori. Sai cos'è Gianni, quando si tratta di camper il problema è sempre quello, l'antenna è sempre il problema, è quello. Il camper, essendo una macchina con la cabina tutta isolata, l'installazione dell'antenna è un po' critica, probabilmente ce l'ha davanti sul parafango, per quello che non riesce ad uscire molto bene. Vabbè, richiamiamo questa Elisabetta. Avanti Elisabetta, vediamo un po' se riesco ancora a sentirti. Ehi, quello lo so che tu mi senti bene, però siccome tu l'antenna dove ce l'hai? Sul parafango della macchina? Non ce l'hai sul tetto del camper, assolutamente no. Quel segnale è 9 più 15, ottimo, non so la zona, Io sono zona Matter Ecclesie più o meno. Dove c'è l'antenna Marco, tu che sei vicino, perlomeno nei paraggi, ha risposto quando ho chiesto l'antenna? Sì, puoi ripetere Elisabetta per favore? Ho capito, sopra il cofano sopra il cofano, dai, diciamo. Per il camper purtroppo se si mette sul tetto ci vuole, Giulio, un'antenna piccola, perché essendo alto il camper, se metti un'antenna grande può dare problemi. Oppure si mette un'antenna normale, tipo l'altezza del cofano. Ho visto che molte persone lo mettono al cofano, perché fa la massa lì, fa la massa sulla carrozzeria metallica almeno. Tappa, vai Giulio. Beh certo, quello sì, è vero, appunto quello che stavo dicendo, non c'è massa sulla cabina, perché essendo sicuramente in resina o insomma materiale isolante, non va bene, a meno che uno non faccia un accorgimento un po' particolare, e allora si riesce anche ad avere una qualità molto superiore, però bisogna che uno lo sappia fare anche, dai. Tipo che so io, un piatto sotto l'antenna che faccia la massa, oppure aggiungere all'antenna dei radiali con dei fili da una parte all'angolo, da un angolo all'altro, e vedrai che si riesce anche ad avere una buona qualità di emissione radio e soprattutto il segnale. Ma stando così sul cofano o sul parafango ti senti bene con le persone che sei molto vicino, ma con quelli un po' in lontananza non riesci certamente a colloquiare molto. Avanti Claudio. Claudio, e poi sai cos'è, mi sa, la modulazione di Elisabetta sembra tipo apparecchio omologato, è un po' bassina e un po' cupa, probabilmente è un apparecchio omologato. Claudio, ci sei? Sì, volevo fare un'interrogazione a Elisabetta, se può, perché io ho contatto con la essendo molto preciso alla perfezione, insomma. Però ho notato con gli occhiali che il tuo segnale è sul 3 qua, sull'ala 87. Commutato sul 4,40 sei 9,30, ma non vorrei che sei qua nel piazzale della Guardia di Finanza, sei in zona via Milano, quelle zone lì dove sto pieno di camper. Non rispondi. Vabbè Claudio, non mi dice niente. Ho detto se sei nella zona di via Milano per salire a Scala di Ciocca, sei nella 4 corsie di via Milano per caso, perché il tuo segnale è molto forte qua da me. È il segnale di come ti sto ricevendo, è molto forte. Può darsi che non abbia smitter lei, eh? Magari è un omologato senza smitter, per quello non lo sa. Ehi, più o meno, che zona sei? Piazza Lessini, via Milano, grosso modo mi. No, per avere un'idea di com'è la resa dell'antenna, no. E mi, non siamo come negli anni Ottanta che venivano in gruppo i Kurmain. Giulia, spiegali tu. Vabbè, ma io ho detto poc'anzi, se mi ha ascoltato, gli ho detto che non vogliamo l'indirizzo della via dove si trova, o addirittura il numero civico di dove... Non ci interessa la zona. Basta, tanto per verificare più o meno la possibilità di avere modo di sentire meglio, perché noi possiamo anche fare degli accorgimenti per ascoltarti meglio, ma se tu non ci dici dov'è la zona, non è possibile, guarda, non è possibile, basta il segnale, basta il mare, per cui è difficoltoso da ascoltare, perlomeno da parte mia che io sono lontano, se vuoi sapere dove sono io, non li punti, che problemi ci sono? Non devo niente, non mi devi niente, per cui non... Vabbè. Vuoi dire in quale zona sei? Va bene, se no va bene lo stesso, non problemi non ne abbiamo noi, figurati. Va bene, dai, e intanto te lo lancio per Gianni, avanti Gianni. Cappa, stavo mandando una foto a Claudio della radio con cui sto modulando. Niente, giusto per fargli vedere cosa sto usando. E niente, Ciccia, ero distratto un po' per quello. Io, è impastato in mezzo al rumore e non riesco proprio a tirarla fuori, quindi per me io non posso farci nulla, non, per me niente. Vabbè, ma... c'è qua o Giulio? Scusi, ma di solito noi chiediamo che zona... Vabbè, sono sul 20, ciao. Eccetera, se non vuole dire pazienza. Rimani incognita, cosa vuoi ti dica? Il tuo segnale qua è molto forte, quindi sicuramente sei nella mia zona. Per esperienza, poi vedi tu, comunque no. No, non insisto, non è così importante. Marco, mi hai detto, non mi dici niente, che cosa? L'ho trovato, ZGM95, ZG da Palmo, sempre collo di bottiglia al baracchino, distanza 10 cm, vedi un po' come va, sicuramente è un po' più acuta la modulazione, ma è anche Gianni che c'ha l'orecchio buono, mi sembra, poi Gianni facendo audio video sicuramente c'ha l'orecchio buono, vai un po' tu, dai. Voi da me il controllo è ottimo alla radio, effetto presenza buona, preamplificata, le tonalità sono medio-alte, va bene, ottimo. Vai Gianni. Marco lì, io non ti devo dire niente, te l'ho sempre detto, segnale buono, radio buona, il suono è perfetto, cioè proprio va bene così, il top, dai. Insomma, qualsiasi mic che utilizzi va sempre bene, ho capito. Tanto vale usare quello normale, dai, adesso rimetto il normale. Comunque, volendo, scusate un attimo, non riprendete un attimo. Questo c'è anche il beep Pomponio Style. Mamma mia, che beep è vero che... Troppi ne hai, uno solo ce ne può. Io lo posso anche togliere, lo lascio per verifica di baracchino in uso e basta. Ma il mio è piccolino, si sente, troppi sono brutti. Vai Giulio, riprendi. Grazie per l'attenzione, ma stavo pensando la forza. Cosa dicevi Elisabetta, avanti? Ripeti piano, parla piano, perché è già difficoltoso a causa della potenza del segnale qua. Se parli piano e scandisci meglio le parole, nessuno ci insegue, per cui se ce lo vuoi dire è quello che ti abbiamo chiesto, se no va bene lo stesso, non ci sono problemi, puoi chiacchierare tranquillamente con noi in Santa Pace, non ci sono problemi. Avanti ancora Elisabetta. Certo, aspettate un attimo, Claudio, non la capisco, dimmelo tu, aspetta. Ha detto che scola l'acqua della pasta e poi arriva. Ah ok, vabbè, adesso io ho difficoltà, voi potete sentire perché a voi vi arriva con un segnale buono, ma qui da me niente da fare. Cioè, arriva bassissima. Pertanto nonostante che ci metto l'orecchio anche sul baracchino per sentire meglio, ma purtroppo è così. Poi tra l'altro ci sono gli splatter di Walter qua in zona. Questo va bene in trasmissione, ma può splatter e poi mi biglia uia. Vai qua. Buonasera. Buonasera. No, io non sento niente, qua è eccezionale questa L87, ho visto che c'è anche questione il 20, ma a me non, assolutamente, non sento niente. Ebbè, la KB23, allora si attacca la 48, diventa muto. Ho la vaga impressione che Elisabetta sia piazzale segni, perché se sta mangiando lì, sicuramente piazzale segni, parcheggiata ferma. Il segnale è troppo alto, 9 più 30, arriva a me, 9 più 30 arriva a te Marco, ce l'abbiamo in mezzo, quindi sicuramente lì, evidentemente c'è qualche manifestazione domani mattina e quindi non è la prima volta che è pieno di camper che arrivano dalla sera prima, va bene, c'è stato un buonasera, avanti chi è? Ciao. Buonasera, ciao Claudio, ciao Marco, niente, Franco D'Assorso, e probabilmente quella zona lì, di sicuro. Poi non è molto comprensibile come radio. Ok, avanti Giulio e fai girare. No, scusate un attimo, ciao Fra. Allora 9 più 15 qua, ciao Claudio, che a Piazza Liceni non può arrivare 9.30 qua, dai. Sì, comunque può essere, vai Giulio. Ok, va bene, dai, saluto Franco e poi cambio orario perché, ripeto, qui ci sono gli splatter di Walter, nonostante che ci sono 10 canali di differenza, dai. Riprendete voi che io cambio l'antenna e riattacco il K, così almeno posso tranquillamente ascoltare e probabilmente riuscirà a ascoltare anche meglio Elisabetta, penso perlomeno. Va bene, dai, riprendi qua, intanto cambio antenna io. Sì, con quello lì sei martellato forte, no, io con l'87 non sento nessuno, assolutamente, nonostante abbia anche il mio vicino che sta parlando, ma no, non sento niente, molto più selettivo. Ciao Fra, buonasera, ben ascoltato, riprendi, c'è Marco, Giulio, io e Gianni Rubrofetta, vai. E ti vuoto. E con Camuro, e te bonga, né Antonello Pomponio. Ciao, lo stesso segnale è tuo, Claudio. Quindi immaginati che se non uscite da casa va a volare. Su qua. Certo le segne. Pomponio. E ha tirato qua, Sì, è Piazzale Segni. Scusa Fra, che c'è un camper a Piazzale Segni che arriva talmente forte e appunto parla a volte anche sopra. Sì, Antonio, l'ho notato, è Piazzale Segni. Sicuramente c'è qualche manifestazione domani quindi arrivano prima e passano la notte col camper in Piazzale Segni. Non è la prima volta che succede. Perché è 9.30, quanto a te lo stesso. Sta arrivando quanto mi arrivi tu col baracchino, col capo forse no. Ma col baracchino quanto arrivi tu. Avanti Fra, scusa. No, avevo rilanciato lì a Gianni. Ehi a Fra, qua mi arrivi molto basso, non so in che zona ti trovi. Comunque rispetto alle altre volte, se sei il Franco che dico io, rispetto alle altre volte mi arrivi basso. Ehi capo, dai, l'ho appena acceso, questo deve saldare un po', deve Gianni. Franco da Sos, sì. Niente. Sì, anche tu sei molto basso, sei un segnale di 3-4 e radio di 2, però riesco a capirti almeno. Va bene, riprendo io. Volevo dire una cosa, volevo fare una precisazione riguardo a quello che stava dicendo Marcolino sul discorso del TVI. Praticamente mi sembra quasi impossibile a tutt'oggi fare TVI col digitale terrestre, lo trovo tecnicamente quasi impossibile, quindi non ti poni problemi. Purtroppo già non è così, perché chi ha impianti antenne messi male, c'era un CB che modulava fino a un po' di tempo fa che faceva TVI a tutto il rione, però non per colpa sua, perché usava anche un omologato, ma per colpa degli impianti TV vecchi di 30 e più anni. Quindi conferma, il TVI è fattibilissimo. Persino con un omologato, se gli altri hanno le antenne messe male. Purtroppo è capitato, altro che. Anch'io credo fosse impossibile, invece anche più persone magari è successo di disturbare la propria TV di casa. No, qua niente, qua tutto tace, non disturbo nemmeno da me, che ho l'antenna sullo stesso palo della TV, attaccata proprio a mezzo metro. Chi rilancio? Vediamo se Giulio ha cambiato apparato, vai Giulio. Sì, sono rientrato, così almeno non sento gli sguardi, poc'anzi era appunto, non era possibile, va bene, comunque così va bene, così già non lo sento di sicuro, sono più che convinto. A questo punto vediamo un po' se riesco a sentire adesso questa signora qua. Con questo apparecchio probabilmente riuscirò a tirare da fuori un attimino meglio. Avanti Elisabetta, ci sei ancora, sì? Sono Magnelli. La base asciutta ha detto che stava mettendo l'acqua, cos'era? L'acqua per cucinare? Il cucinamento doveva scolare la pasta, evidentemente sta mangiando. Vabbè, intanto mi chiedo adesso. Alle 8 meno un quarto sono, ci picchiamo. Un po' tardio, vabbè, comunque, ancora un quarto d'ora buono, almeno io posso rimanere, un quarto d'ora buono. Vediamo un po', dai. Avanti Gianni. Per Claudio, ti ho mandato le foto, così ti ho reso praticamente partecipe, insomma, ti ho fatto vedere con cosa sto modulando, quindi con il vecchio reperto anni 70/80 e poi ti ho mandato la foto del portatile. Ho visto che ti sono arrivate e niente, questo è quello che io possiedo in questo momento in confronto alla tua stazione. Vabbè, dai, no, facciamo, ti ripeto, io ho 60 anni, tu forse sei anche più piccola, io ho iniziato nel 74 a trasmettere, e anch'io cosa pensi, ho iniziato con la radio che stavo usando Giulio Poccanti con HB23, un microfono da tavolo, lineare allora non ce n'erano, o se c'erano non c'era possibilità di comprarli, e si andava avanti così, poi nell'arco degli anni chiaramente si cresce, anche perché io la mia passione me l'ho portata avanti e me la porterò avanti fino a quando muoio. Capito? Vabbè, piano piano. Sì, l'ho avuto anch'io quel portatile, quel baracchino non mi ricordo, però l'ho già visto da qualche parte, ma quel portatile l'ho avuto anch'io. Quel portatile con i contraverse che si cambiano le frequenze. Va bene. Avanti, Antonello Pomponio, visto che sei entrato, dici qualcosa, io. Allora, sto qua a verme, strano. Sentevo 5. Di solito qua a verme non avevo mai. Forse perché c'è un po' di vento. Non ce l'hai, vento, Antonio. Sto fermo, mi sembra. Non si muove una foglia qua in giardino. Dove lo vedi sto vento? C'ho qualche da Santiago 5, non l'ho mai avuto, andrà a farsi tra verità, strano, buona giornata, faccio questo, su quel verme 5, se metto da verme 500 è guai, minimo arriva a 9. Qua io ho fatto una scelta con tutti quelli che ho provato, ho lasciato l'87 perché veramente è selettivo, Antonio, tu lo sai, ce l'hai, non c'è QRM, non prende splatter, qua c'è QSO, il 20 anche di Fabrizio che lo sta trasmettendo, però non mi dà fastidio assolutamente, molto selettiva sta radio, sono contento che funziona, perché così quando le do testate e provate. Marco, ce l'ho uguale a quello io, ma è un bel rasone, è grandissimo come microfono, lo Shure, è bellissimo microfono, esce molto bene, ma è troppo grande, non mi piace, ce l'ho uguale, preciso, identico a quello, tutto dentro la scatola sotto dove ci sono tutti i microfoni, adesso non mi va di fatto la foto e mandartelo, ma ce l'ho, fidati che ce l'ho, ed è un bellissimo microfono, esce molto bene, ma è un bel rasone. Tramite Giulio, questo Shure che si muoveva il piantone della capsula, mamma mia, quanto è manno, che... Quello che ti ho mandato? Io uguale a quello lì ce l'ho io, e ce l'aveva anche Gianni, mi pare che l'abbia venduto. Ma conosco bene, ce l'aveva anche Calvino rubato, buon'anima, ce l'aveva anche lui, che ci va fortissimo. Vedi, il gruppo è quello, da poi è originale americano come microfono, è praticamente come il Tanner più 3, più 2, eccetera. Sì, io sto usando il Tanner, ma mi soddisfa di più perché è piccolo, capito? Non dà fastidio, visto? Arriva alto, l'avevo provato, arriva alto a quello che mi avevi fatto tu, no? Al soppalchetto che mi avevi fatto tu, supera il coso, giù mai tocca la Ferrari che va sopra, è troppo grande, è troppo alto. Infatti Gianni mi pare l'aveva venduto proprio perché non ci stava sotto dove lui aveva posizionato la radio e si aveva preso sa Delta, che c'è il flessibile che si alza e si abbassa, capito? E vabbè, belle cose, bisogna tenerle custodite. Buonasera, sono ritornata. Sì, Elisabetta, poi ti rilancio il microfono. C'è anche Franco, ciao Gianni, rilancio a Gianni che è l'ultimo entrato, già, poi vai per Franco di Sorso, ok? Sì, via. Buonasera a tutti, da cordialità. Ciao Gianni, ben entrato. Certo, e salutami anche Elisabetta, l'ascolto benissimo qua a Sorso, l'ascolto. E niente, voglio vedere se arriva bene anche il segnale. Avanti Elisabetta. Buonasera, con chi parlo? Certo, Elisabetta, Franco da Sorso. Ah, da Sorso, sono, buonasera. Capo, buonasera. Bene, ti arrivi benissimo, arrivi con un segnale di 9, è una bella radio, diciamo, si capisce abbastanza, però è un po' cupa la radio. Avanti Giulio. Ok, adesso la sento bene Elisabetta, vedi? Cosa vuol dire cambiare la radio e metterne una figlia? Per cui questo è tutto un altro discorso. Elisabetta, Giulio sempre da questa parte, che poc'anzi facevo fatica ad ascoltarti, adesso ti ascolta molto bene, adesso va benissimo, per cui possiamo andare avanti. È entrato, ciao Gianni, hai la radio fortissima, puoi anche abbassare un po' se qui, però fammi anche bene così, il rumore di noi. C'è anche Gianni lì, dalla zona stazione, che ti mando avanti. Avanti Gianni. A capa, ben sentito Gianni? Ambulanza permettendo, adesso Elisabetta riesco a sentirla rispetto a prima, l'ultimo passaggio è migliorato parecchio. Ciao, aspetta, ben sentito anche a te, dai. Elisabetta, avanti, da che zona? Hai un eco fortissimo, come mai? Mi senti fortissimo, ma che zona vuoi? Il volte te l'abbiamo chiesto, te lo dico io, ecco il camper è sicuramente Piazza Lessini. Ah, ecco. Vabbè, buonasera, benvenuta per la prima volta. Aspettiamo il doppio rullo, avanti di nuovo e poi per girare per tutto. È un po' di poche parole Elisabetta. Non temere Elisabetta, non temere. Quindi Giulio adesso ti sente? Sì, ti sento bene adesso Elisabetta. Adesso problemi di ascoltarti non ne ho, adesso ti sento bene. Per cui, vabbè, ho cambiato la radio, dipendeva anche un po' da me poc'anzi. Però diciamo che di solito sento sempre tutti quanti, ma tu arrivavi un po' bassa. Ma adesso ho un'altra radio e un'altra molto più sensibile. È molto superiore, per cui va bene così. Ti ascolto. Avanti Franco, da solo. Comunque carina la voce di quella ragazza di sotto. Oh, la radio è uguale a quella di Giulio. giù le antenne tue collegate a quelle di Claudio. Non ho capito, Fran. Cosa ci ho collegato a quello di Claudio? Ho detto, buttarle giù le tue antenne, in modo che non abbia più QRM e le stazionarie. E ti colleghi alle antenne di Claudio. Sì, via. E glielo faccio l'affare già. Anche perché ce l'avevo il cavo da qui al palazzo di Claudio. A parte devo passare davanti a casa di Garau, devo passare. Figurati tu. Sarebbe bello cambiare casa e mettermi prima di Claudio, vita proprio nell'angolino di via Milano, Perché quello è il palazzo più alto che c'è. Se no te l'ho detto, quando mi trasferisco a Monteoro facciamo tipo ripetitore, Antonio, bene va. Ma lui si dovrebbe mettere un filtro del rete, perché lui, essendo lì vicino a bene, è lì c'è molta tensione, con tutti quei fili che ci sono lì, è chiaro che si crea QRM o Antonio, ma non ci ha mai pensato a metterci un filtro del rete. Ah, ma ce l'ha il filtro, questo auto da 7, ce l'ha. Pensavo, QRM 5 fisso, hai capito? Adesso provo ad attaccare il coso, faccio prima, mi stacco il piede là dietro, l'altro cosa che aggancio lo iaisso, così elimino i problemi. Aspetta 2 minuti. Ma c'è questo, Antonio, la modulazione è perfetta, bellissima, però gli aici non mi piace la modulazione. Grazie, perché poc'anzi c'era Walter sul canale 20 e noi sul 10 e c'era battimento a più non fosse. Va bene, grazie. Era un marecchino di 50 anni fa quello là, per cui va bene lo stesso. Comunque funziona molto bene. Avanti, Marco, sei rientrato, stai ancora mangiando? No, ho finito da un bel po', dai, stavo guardando. Volevo mandare quel microfono a Claudio, quello che gli ho mandato. Quello l'avevo sentito, visto e sentito, e quello che ha il potenziometro rosso era favoloso perché non introduceva alcuna timbrica tipo metallico, cupo, barattolata, no. Era effetto presenza. L'unico microfono che abbia sentito da tavolo che è effetto presenza. Proprio modulazione 1 sta a 1. Come lo sentivi in verticale lo sentivi con quello. Naturalmente roba di 30 o 35 anni fa non ne trovi più, chi ce l'ha se lo tiene, chi lo vende, secondo me gli ha cambiato capsula, come hanno messo. Vabbè. Dunque i microfoni belli di una volta non li fanno più, tutti la serie Turner, sia da palmo che da tavolo, cioè quello che c'è adesso è tutta roba avanzata di 30-40 anni fa. Adesso cosa c'è rimasto? Se vuoi comprare un microfono da tavolo, per il baracchino cosa c'è? ZG e poi cosa? Qualcosa della Proxel, ma quelli così, non lo so, vabbè. Va bene, riprendi doppio rum. Saluto a tutti, vado che sta per quanto sta sperando, che sta studiando. Un grosso saluto con l'amico di Bosco. Sono la botte sempre anche qua. Capo Elisabetta, non è ho capito tanto, ho capito salutarvi amico di sorso e non ho capito tanto perché sempre un bel cupo si è riuscito adesso. Comunque saluto il ragazzo, stai andando via, ci sentiamo tale prossimine. Avanti Giulio. Ok, va saluto anch'io, fatevi sentire, così possiamo scambiare quattro chiacchiere magari una prossima volta o Elisabetta, qui c'è sempre posto per tutti gli amici che vogliono parlare al baracchino, per cui va bene così. C'è una bella ruota sempre sul canale 10 e noi siamo ospitali e aspettiamo tutti molto ma molto volentieri e con piacere. Ciao di nuovo Elisabetta, alle prossime. Avanti Claudio. Sì, ciao Elisabetta, alle prossime, cordialità e saluti. Ci riascoltiamo sicuramente al prossimo passaggio. Ben ascoltata per la prima volta, buona permanenza a Sassari. Allora, io ne approfitto che ho il microfono e vi saluto tutti. Mi allontano a portare il cane e poi si cena, sono già le 8 passate. Ciao Giulio, ciao Gianni Rubrofetta, Gianni Doppio Room, Marco, Franco, poi non lo so, non mi ricordo più, Elisabetta l'ho salutata e chiunque fosse in ascolto sul canale 10. cordiale saluto a tutti, buon fine settimana e buona domenica per domani, ma sicuramente ci sentiamo. Il cambio per Gianni Rubrofetta, io ascolto i finali, poi chiudo e ci sentiamo domani. Ciao a tutti, grazie di questo. Ehi, ben sentito Claudio, dai, ci aggiorniamo, grazie per le fotografie, per tutto il resto. Saluto l'Elisabetta che finalmente è uscita fuori dal rumore, però praticamente non sono riuscito a capire per niente quello che ha detto, e niente. Altra precisazione riguardo per Marco, riguardo alla storia del TVI, non ho detto che è impossibile, ho detto che è quasi impossibile, quindi c'è un piccolo margine. Rispetto all'era dell'analogico, chiaramente le probabilità sono calate praticamente del 70-80%, ciò non vuol dire che il baracchino possa ancora in qualche maniera disturbare la ricezione TV. Comunque le possibilità si sono ridotte tantissimo. Niente, visto che ti ho citato, vieni avanti, fai girare. Eia. Qua è capitato anche a me che le persone che abitavano di fronte, il palazzo di fronte, no? Probabilmente avevano un'antenna vecchia, no? E appunto avevano disturbi, poi come l'hanno cambiata il problema si è risolto. Perché d'altronde le antenne si devono pigliare, le antenne TV, pioggia, vento, poi lì nel cavo può entrare acqua, e ci sono tanti motivi per cui si può fare TVI, però poi vedo che non nessuno si è più lamentato. D'altronde io sono sempre ai minimi termini di legge, 4 watt, microfono normale ho rimesso perché tanto sti amplificati lasciano il tempo che trovano già, non... Cioè se già esce bene questo, perché dovrei mettere l'amplificato? Quindi ciao a Claudio che sta chiudendo, buona passeggiata, buon tutto, ci sentiamo domani. Ciao all'amica Elisabetta che ha chiuso, che anch'io, nonostante il segnale buono, l'ascolto occupa e forse anche un po' satura, non credo che sia la vicinanza, non è buona la modulazione. Ti rilanciamo, doppio room, l'ho rilanciato prima, aveva preso qualcun altro, vai Gianni, doppio room. Sì, sono male, devo salutare ancora Elisabetta, Claudio che l'ha fatto pure sì, grazie per il questo e buona domenica anche a lui. Adesso vi saluto anche io, dai, che devo portare il giustare e poi vi guarderò pure il tipo, dai. Vi saluto tutti cordialmente, grazie per il questo e a domani. Ok, riprendo io allora, dai, saluto subito a te Gianni, a Claudio che mi ha ascoltato e anche a Elisabetta. Saluto a tutti e tre e grazie per il questo, alle prossime. E buona roba sempre, quando uno chiude di salutare subito dopo continuare magari il questo. Avanti Franco. Ehi Franco, ciao Gianni, buon correttivo. Ciao anche a Claudio e a Elisabetta, buon correttivo e ci sentiamo per le prossime. Che c'era arrivato Gianni il profeta, Gianni. A proposito, Franco Di Sorso, mi è sembrato di capire che Elisabetta avesse detto che avessi una modulazione veramente splendida e sensuale. Se non ho capito male ha detto così. Fatta e me. Ah vero? No, io non ho neanche capito perché non riuscivo a capirlo. Io dal poco che ho capito splendida l'ha detto e mi è sembrato anche che abbia detto proprio sensuale, era finito in ale, quindi buon per te. È meglio avere le voci arrabbanti, anche al baracchino ci si guadagna sempre. Riprendi Gianni il profeta. Ah, ti volevo chiedere già, ma tu sei sempre nel settore audio video? No, mollato, cioè per quanto riguarda l'ambito dell'informazione non sono più in televisione, quindi per il momento attualmente sono fermo. sia audio che video, quindi mi sto guardando un po' intorno, sto cercando di capire cosa fanno da grande. Questo è per rispondere alla tua domanda. Ho visto che Franco mi voleva chiedere qualcosa. Avanti Franco. No, stavo lanciando a te. Continua. Ah, ok, bene. Niente, sì, per Franco posso confermare che quando che Elisabetta ha fatto quel passaggio dicendo che praticamente ha detto testualmente che aveva una voce bella e gradevole e non so che cosa, quello sono riuscito a capirlo, quindi posso confermare quello che ha detto Marco poc'anzi. È una voce da maniaco, c'è a me in pratica Franco. Sensuale non vuol dire da maniaco, vuol dire una voce arrabbiante, sensuale, dai, senza volgarità. Ma poi Antonelli ieri si è sparito, ha detto 10 minuti vado a comprare la birra, poi si è scomparso. Sono andato a comprare la birra, poi mi sono fermato lì al bar a prendere le sigarette a Simona. E il parolo del bar ha preso, mi ha rapito, cazzo, ha cominciato, dice, io vieni qua, io fu una birra, ha detto la bella, gli ho detto. Ho finito la birra, da una cazzo, cioè sono uscita roba di 6 o 7, c'è bello mezzo con fuggita, io non mi tocca molto il suo, era talmente fuso ieri, non mi ha fatto pagare nulla, sai, non è nulla, cioè, sono entrato a casa, erano le 11 qualche cosa, tu figurati tu. Ma non ho capito chi era fuso, il barista o chi? Il parolo del rifornitore, capito? Mi ha rapito lui, mi ha rapito. In pratica, vieni qui Antonello, non andare via, dove stai andando? Ti offro una birra, ma di quelle birre piccole, di quelle 33, c'era sempre quella birra chiara, che era chiara. Ho bevuto una di quelle, la volevo in pratica. Mi ha fatto bene altre 4 o 5, ma ormai erano da 33 e non mi ha fatto niente, se no è stato a casa e la scala l'avrei fatta a 4 zappe, l'avrei fatta. Sai, potevi approfittarne. Vabbè. Dai, riprendete un po' voi, io sto. Mi sta venendo il classico abbiocco post pandium, si può dire? Quindi sto perdendo quota. Giulio, c'è ancora? Certo che ci sono. Sì, vabbè, evidentemente hai mangiato bene. Però, sai cos'è, o Marco, tu devi abituarti a mangiare non al pranzo, non a questa cena, tu pranzo invece. Così lo biocco non ti viene durante il giorno. Al buio non ti viene lo biocco. E questo è un problema. Perché già sei sintonizzato nella parte terminale della giornata. No, vabbè. Sì, vabbè. Franco, è già ne manca mai il discorso del bambino Antonello, sì. Sempre aspettato, Franco. Lui sì. Lui ormai. Ormai è anche la vecchiaia che lo sta facendo così. E poi cos'è che hai detto poco fa Antonello? Adesso non so come l'hai fatto andare. Guarda che a me non mi mettono appresso quelli con la terza gamba. No, tranquillo. No, lo conosco il parole cosa, però non è che capito. È evitato lui, è evitato a me. Da una poi si è passata a quattro, no, io già me ne sono andato. Era talmente fuso, guarda, che io questo non neanche ci arriva Usino, perché lui abita Usino, capito? Non so come ci è arrivata a casa sua, la verità. Perché l'ho continuato fino a mezzanotte. Vabbè. Vabbè, se non scherziamo, proviamoci. Avanti Gianni. Fra, a proposito, ma hai modificato qualcosa? Perché da due passaggi mi arrivi un po' più forte rispetto a prima. No, sto usando il 680, sto usando, ve la chiedo. Sono partito che era freddo la radio, e adesso man mano sta scaldando, si sta prendendo i fatti suoi. Ok, va bene. Marco? con il suo abbiocco, ormai è conclamato. ma anche ieri avevi trippa, o era oggi, o solo oggi era la trippa, Marco? No, oggi. No, ogni tanto, diciamo che la facciamo spesso, patate con trippa, piace a mamma molto. Purtroppo il discorso di questi orari sballati, purtroppo sta peggiorando, di certo non migliora. Io stamattina proprio non riesco a alzarmi, poi la notte per dormire alle 4 sono sveglio, ancora mi devo imbottire di melatonina e valeriana forte per pigliare sonno, se non di peggio. Purtroppo così è. Preoccupazioni, sai, i genitori invecchiano, e non solo quello, tante preoccupazioni sono, dai. Capisco. quando lavoravo in giro per i locali notturni a mettere musica, chiaramente puoi solo immaginarti gli orari. Praticamente la gente normale usciva, io rientravo a dormire e abbassavo le tapparelle, figurati, quindi a livello biologico avevo praticamente tutti i riferimenti completamente sballati. Adesso diciamo che ho recuperato praticamente quello che è il vero orologio biologico, dai. Adesso praticamente sono diventato più sensibile alla luce, quindi bene così per adesso. Avanti Giulio! Ok, Gianni. Purtroppo quando si lavora la notte è un po' difficoltoso, poi a tornare la mattina presto, presto l'alba si comincia ad abbassare le palpebre, già lo credo. Purtroppo è così. La gente dice no, quando mi è abituato, ma non è vero, a dormire si deve dormire la notte e lavorare di giorno probabilmente, possibilmente, per cui chissà, quando si arriva a una certa ora la stanchezza incombe, per cui non si riesce a fare, si abbassano le palpebre e fatto. Prima una cosa, Gianni, oggi ti piace di più la radio, la chiarezza intendo, perché l'altro giorno mi ha detto che era un po' compresso. Sì, Giù, rispetto agli altri giorni, io personalmente la trovo più gradevole, cioè più comprensibile, pulita, bella, proprio così, così personalmente mi piace di più. Perché ho abbassato ancora un po' il micchiglino, adesso è sotto uno addirittura, per cui questa è una radio professionale e finge molto, perciò se aumenti poco il micchiglino qui subito incomincia un po' di compressione. Soprattutto se uno va lassù, se è una radio professionale magari è diverso il discorso, può anche essere accettato. Va bene, dai. Campanello lo stesso, sta usando una radio professionale, in questo momento ho una radio fortissima, io non lo so, Campanello, io ti consiglierei di abbassarla un pochino, perché va bene, sia ben chiaro, va bene, però è molto ma molto forte, non è una radio da famoso, diciamo così, di posante per fare queste ore. È una radio che spinge a lunga distanza. Va bene, avanti Franco. Sì, quella di Antonello spinge un bel, spinge come radio. Sì, ti dico una cosa Giulio, che per la notte c'hai ragione tu, non è tanto facile, non è perché io ne ho fatto più di 30 anni, ne ho fatto di notti, e ti dico che da un po' di anni in questa parte ne facevo una solo alla settimana, una massimo due ne facevo alla settimana, però ti dico che anche se ne fai una di notte, perché facevamo una mattina, una un pomeriggio e una notte, e poi due riposi, anche una notte ti veniva la biocca, ti veniva, perché è sempre così, all'inizio sino alle due, alle tre non ti viene niente, poi comincia a chiude per gli ultimi non te ne accorgi neanche, come ti si chiudono. Verso le 3:30-4. Scusate un attimo, dai, io vi devo lasciare, mi hanno chiamato per la cena, per cui quindi grazie per il QSO a Rottoni, ciao Franco, grazie per il QSO Antonello, o Marco, o Gianni e quanti ce ne saranno o ce ne sono d'ascolto. Alle prossime, dai, ci sentiamo domani. Ascolto velocemente il vostro finalino e dopo mi sentiamo. Ciao a tutti, mi prendi pure Marco, vai. Ciao Giulio, buona cena, buon tutto. Ci sentiremo domani, tanto non prevediamo di uscire qua. Dai, ce la passiamo in casa e quindi accendere il baracchino. Ok, sì, la radio è bella, chiara, anzi prima con l'altro baracchino, quando si è entrato, aveva una modulazione talmente forte. Talmente forte che mi asciudroneggiava, pure troppo. Questa è anche più riposante proprio per un QSO normale, dai, molto riposante. Antonello, per esempio, Pomponio, mamma mia, c'ha questa modulazione amplificata che lo stesso ti fa sordo, si sente anche la TV che è nell'altra stanza, e così non è rilassante il QSO. In certi casi lo sai che per non disturbare, perché qua si sente tutto con questi muri, devo alzare per qualcuno e abbassare per qualcun altro, tipo per Pomponio devo abbassare, perché è una cosa scandalosa, tanto amplificato. Ciao. Dai, sentiamo, Franco, vai avanti per i saluti a Giulio. Ehi, capo, Giulio deve fare una cosa via, ciao Giulio comunque, dai, ci sentiamo alle prossime. Avanti Antone. Ehi, ciao Giulio, ci sentiamo, stammi bene, buccoletti, buon tutto, alle prossime. Lo so che questa radio c'è forte, io ho tolto le lecce, già un grido, trim, per quello che pompa un vegetario. Certe volte esce anche più amplificato, certe volte è eccessiva, quando, come dico io, quando la modulazione è eccessiva, davvero se si incuffia poi non ne parliamo, per qualcuno devi alzare, come per quella ragazza che è entrata prima, per qualcuno devi abbassare, così un po'. Magari se avessimo tutti i microfoni normali o tarati giusti sarebbe più rilassato il QSO, capito? Per esempio Gianni è perfetto così, Franco va bene, è un po' più forte ma va bene, è così, va bene, dai. Detto ciò sto perdendo il filo del discorso, Gianni vieni in mio soccorso. Capa Marco lì, salutami a Giulio, colgo la palla al balzo perché anch'io vi devo lasciare adesso, questa sera vi lascio, quindi salutami a tutta la ruota, ben sentiti, ci aggiorniamo all'improvviso, come succede sempre. Dai, buona serata a tutti ragazzi e buona cena. Ci sentiamo alle prossime, ok? Salutoni. Ciao Gianni, ci sentiamo anche a te. Salutoni Bucoletti. Ciao Gianni, alle prossime, dai, ci sentiamo. Buona serata. Franco? Ehi, capo, dai. Ciao Gianni. Ci sentiamo alle prossime. Ti ascolti un po' meglio. Oggi stasera ti ho attaccato l'amplificatore all'antenna, almeno ti ascoltavo un po' più alto. A me? No, a Gianni, a te non c'è bisogno dell'amplificatore. Io lo credo. Arrivo basso, già mi ascolti lo stesso, diceva quello. Guarda, tu mi arrivi 6-7, mi arrivi normale. Se attacco l'amplificatore mi arrivi 9. E io da liscio quanto? Da liscio sì, uguale a Antonello, sì. Aspetta che attacco l'amplificatore. Vado a vedere. No, vabbè, più che altro mi interessa liscio. Cioè, l'importante è che sia capibile già senza amplificatori. Vedi un po'. Guarda, con l'amplificatore sei 8 e 9 modulati. La radio 5 è perfetta. Eia. Poco fa avevi accennato al lavoro notturno. C'era quel periodo tra i vari locali avevo fatto il ruscello, no? Io lavoravo in Cambusa, no? Praticamente dovevi, c'era ritrovo in piazzetta, ci dovevamo trovare in piazzetta centrale di Alghero alle 9, si pigliava l'aperitivo, quello di voi, poi alle 10 centrale in discoteca, si preparava la roba, tanto poi era vuoto, la gente arrivava sul tardi, però alla fine dalle 9 di sera insomma uscivamo alle 7, 7 e mezza, poi bisognava andare assieme a far colazione, più che altro si faceva per socializzare, insomma dalle 7 e mezza si facevano le 8, 8 e mezza quando a partire, insomma 10 ore bene o male ci partivano me. È bello che poi guidando dal sonno che avevo, tornando dal Alghero, un giorno mi sono trovato nella corsia opposta, meno male che non c'era nessuno. Mi addormentavo alla guida e poi stavo gran parte della giornata dormendo, poi mi svegliavo, mangiavo, mi preparavo, mi lavavo e di nuovo venerdì, sabato, domenica dovevo andare, stiamo parlando dell'anno di grazia 94-95, ero più giovane, me la sentivo di più. Poi ho pensato a quello che mi ha detto ieri, no, che io magari non posso fare lavori di fatica, ma se mi metti in un ufficio interno, no, se mi metti a fare il bidello, a trovarlo, un posto di bidello, tanto portano le circolari, mi pare che non facciano nemmeno più le pulizie perché le fanno le imprese esterne, vabbè. Vero Antonio, anche a te piacerebbe fare il bidello, no? Alle superiori magari, fare il maniaco. Poi ti chiamano signor Bidet. È vero. Signor Bidet. Guarda che l'ho fatto nell'80, sono entrato alla veterinaria a lavorare. Gli ultimi 2 mesi li ho fatti su a 7 pompieri, capito? Di lì mi hanno fatto fare il bidello, dice, tanto dice fai 2 mesi, te devi andare, mi ha detto, a me lo dice, vieni, adesso dice non devi fare nulla, e se non va, dice portare, se ti dicono di portare i telefoni, porti i telefoni, basta, non devi fare altro, ma ho detto, vabbè, tanto gli ho detto, mi mancano 2 mesi, ma cosa me ne frega. Tu mi hai detto, come stipendio sono arrivato, adesso sono arrivato di mio padre, 1.200.000 lire mi avevano dato, e sono entrato con 600.000 lire il primo mese. Eia, non lo sapevo che avessi fatto il bidello. Eia. Ma Antonetti, a scuola c'è pompieri perché? Ma il magistero, no, lì non so se ci siano i bidelli in quelle facoltà, boh. Sì, vabbè, non via magistero, al magistero c'erano i bidelli, perché c'era, a parte che c'era cosa, se ti ricordi, tempo fa che faceva il custode, c'era una ragazza che modulava, quindi a fianco ai pompieri c'è la facoltà di veterinaria, io lavoravo lì, capito, sono stato un operatore specializzato e facevo dalla mattina fino alle, dalle 8 fino alle 1 e mezzo, poi dalle 3 alle 5 in pratica, e tu vai a dire la maggior parte della settimana ci mandavano una carriola a prendere gli avanzi del coso, del mattatoio, per darle ai cani, capito? Quindi in pratica dovevi prendere gli avanzi, mettere tutto dentro questo calderone grande e farli bollire, una puzza non te ne dico nulla, da vomitare ce n'era. Vabbè, sempre carne, non è cacca, no? Qua c'era, abitava un signore nel palazzo, no? Nel sottopiano abitavano i neri, no? E avevo comprato, senegalesi. E loro facevano queste pentole grandi, carne bollita, no? Spezzatino, quello che è, no? E questo signore se ne usciva, c'era una puzza nel portone, mio marito si stava sentendo male, ha detto, ma è odore di carne, non è meglio, scusate il termine. Riprendi fra. Franco ha chiuso? No, scusa, non ho chiuso, scusa un attimo per la verticale, riprendi. Eia. Ehi Antone, che puzza vuoi che facesse? Carne, non è. Poi non lo so cosa c'è in mezzo, se ci sono gli intestini, quello che erano, può darci pure, ma magari con la pupù dentro ancora, può darci pure, tanto i cani già si mangiano di tutto. Quello sì, c'è una volta il percorso per questo, c'era un cappotto di la prima sigaretta accesa e se la bagnava. Antonè, questa cosa me l'aveva raccontata uno che tanti anni fa in continente aveva lavorato tipo alla Simmental o alla Manzottin, no? Dove fanno proprio la carne in gelatina. Dice che vedevi questi calderoni enormi con questa carne di un brutto colore che bolliva, diceva era un fiaggo. Ma io non ho capito perché. Poi la carne, sai, secondo me con qualche additivo la colorano bella rosata, no? Insomma, la rendono più appetibile come prodotto finito, ma lui si ricorda questo, che questi pentoloni enormi, proprio industriali, ribolliva questa roba, poi c'era un fiago che gli faceva schifo. E lo dice uno che ci ha lavorato, ma o sono schizzinosi loro, pare strano che la carne che viene bollita faccia questo odore brutto, è molto strano. Sì, di tutto c'era, l'interiora, di campana, tutto mischiato, roba di vitello, roba di agnelli, porcetti, tutto mischiato, capito? E eravamo da prima era di lavaggia, dovevamo fare cosa, quello con la colazione lì. Dovevamo attaccare il petrolio a freddo, andavamo con lo, con, come si chiama, col messo, quello grande, e facevamo le porzioni, capito? Per questi cani che avevamo. Poi vabbè c'era per le pecore, salivamo qua a Monte Bianchino, per prendere, prendevamo erba, quelle altre cose, bacche, mi pare che era, di tutto lì. Poi c'era un tipo che in pratica che era stato insieme a me, era testimone di gioco, aveva per fare lo sperma al coso, al motore, doveva fargli la seghetta a mano. Eia. Vabbè, ma quelle sono cose per la riproduzione, non so, certo non lo facevi tu che eri bidello, no, ci mancherebbe. O quello che è, insomma. Eia fra, no, cos'è che ti avevo detto? Ho perso il filo. Ho detto, possibile che la carne bollita faccia questa puzza che dice Antonello? Ho detto, un signore nel palazzo si lamentava quando i senegalesi si bollivano la carne in quei pentoloni, no, tipo spezzatino, e diceva che c'era un odore che da svenire, ma io tutto questo odore da svenire non lo sentivo, io sentivo odore di carne bollita, punto. O sono fiaghini loro, boh. A me che non bolliscono pizza con roba del genere, la pizza se non è bella pulita, diciamo che un po' di odore lo fa, però altro tipo di carne lo penso, un po' la pecora mi sembra che lo fa, un po' di odore, ma non mica tanto. Eia, poi uno che ha lavorato tipo per la Simmental o Manzottin, no? Che proprio ci ha lavorato, dice che c'erano questi calderoni enormi, industriali, dove bolliva la carne, no? E dice che era un fiaggo, parole sue. Poi naturalmente la Simmental, la Manzottin, quando il prodotto è finito è bella rosata, no? Diciamo la rendono più appetibile, magari la colorano pure, che ne so. Solo che lì faceva schifo a vedersi e a sentirsi l'odore, ma pare strano a me. Forse era gente schizzinosa, diciamo. Non lo so, perché non ci ho mai lavorato in quei posti lì, e non lo so, neanche addirittura in macelleria, queste cose qua, se no, perché uno che lavora in macelleria, di carne ce n'è di tutti i tipi, ce n'è, però non penso che sia una cosa così, però, che tutti, ma a meno che qualcuno non cucina qualcosa che... Vabbè, da un comune all'altro, quando sei nei palazzi, nella tromba delle scale, queste cose qua, magari un po' di odore esce, però non è che sia tanto cattivo. Se lo cucinano e se lo mangiano vuol dire che non è odore brutto. Sì, ma infatti, quello era per partito preso, capito? Anche la moglie questa sera diceva, c'era una puzza, mio marito si stava sentendo male. E io stavo per dire, allora ci vorrebbe una passata di terza guerra mondiale al suo marito a vedere se non si mangia la roba da terra pure. Poi la gente è abituata male, siamo in pace. dice tra virgolette già da troppo tempo, ogni tanto una bella passata avevo, e nonno si mangiava quello che trovava, quello che trovava nel 43, vero, non c'era una fame, mamma mia, quando trovavano le bucce di fave, le bucce di patate buttate, se le bollivano si mangiavano quelle, per non dire di peggio, mi lasciamo perdere. Capo, ma tu pensa che noi qua, vabbè, noi qua abbiamo bio barbecue, queste cose così, e anche altri hanno il barbecue nel cortile e queste cose qua. Tu pensa nelle grandi città tipo Torino, Milano, quelle zone lì. Quindi, io a Torino c'avevo mio cognato e ce n'è un altro, anche due cognati avevo là, lì, uno c'è ancora. E all'inizio si metteva, hanno comprato un barbecue di quelli piccolini, hanno comprato la carbonella e si hanno fatto il fuoco per arrostirsi qualcosa, lo sai. E poi gli hanno fatto le voci e non si poteva arrostire perché l'odore saliva su, via, lì e là, dice il fuoco no, si deve usare solo la griglia elettrica. E con la griglia elettrica era la stessa cosa, che l'odore e il fumo alzava lo stesso. Aia. Per esempio, qui c'è uno che sta sempre col caminetto, no? Quindi fumo a butta dura, odore di legna bruciata, no? Però gli amici suoi, capitano, sono, non dicono niente. Io scommetto che se prendo quelle grigliette da 5 euro, quelle usa e getta, no? Che hanno la carbonella già pronta. Se io nel terrazzino mi faccio una fettina di carne arrosto, vengono a bussare, ci credi? E lo fanno per partito preso, perché con quello sono amici e non dicono niente. E i condomini sono... Mettere in condominio è brutto, ci siamo perdere. Se potessi, anche se sarei andato in una casa singola, sempre anche in città, no? Più vicino possibile alla città, però il condominio è un manicomio, uno zoo è il condominio. No, non conviene, a parte che uno zoo, che deve stare lì a litigare con tutti, via, e poi anche una grossa spesa il condominio, è una grossa spesa, che devi aderire a tutte le spese, anche per una lampadina, a tutto devi aderire, e sono spese che ci porta il condominio ogni mese. Odia a me! Poi più grande il condominio, più grandi sono le spese, vero Claudio? Mamma mia, lascia perdere, non vedo l'ora di uscirne, guarda. Ma non avete il van, è mio, sono entrato adesso. Mi ho sentito ancora nell'aria. Fra, ragione hai, ragione. Guarda, non c'è niente da fare. Qualsiasi cosa, giardinaggio, portatura degli alberi, pulizia giardino, qualsiasi cosa, lampadine, tutto ti includono, tutto. Io è già da 6 mesi che ogni mese, anziché la quota condominiale, praticamente sto versando il doppio. Il doppio perché stiamo facendo lavori e quindi bisogna versare. Vabbè, vado a cenare che è pronto. Un abbraccio a tutti, buon proseguo. Ciao! Di Dravesso. Cosa c'è a cena? Claudio. C'ho spaghetti con il ricci, K. E un ricci, un addo dai. Ho l'aggio comparato, 20 euro un affare di succo di frutta, però per noi già basta, dai. Occhio che non ci ha fatto al molo asini. No. È fatto dallo sticchio pacchio di mia sorella, quindi sono tranquillo che è buono. Vabbè, se riccio di Alghero è buono, eh? No, perché fanno delle porcherie che viene male a dirlo, no? Hanno visto gente, cioè quelli che a Santa Maria, andando lì per Carrefour, cazzo, in piena estate si mettono con queste bottigliette di riccio al sole, poi qualcuno si dice le ricongeli, se la congela, poi il giorno dopo le rimette lì in buona vista sul panchetto al sole, immagina come sono questi ricci. No, non ne mangio nessuno io, Marco, l'ha dato mia sorella, l'ha fatto mio cognato ad Alghero, quindi se no non ne mangio io, ne compro. Ciao ragazzi, dai che è pronto, un abbraccio e ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao Fra, ciao, ci sentiamo. Ciao Anthony, ciao Fra. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Sì, poi c'è chi allunga i ricci col rosso d'uovo, fra, già se l'hai presente, no? Me l'ha spiegato un amico la tecnica, ci mettono un bel po' di rosso d'uovo che sembra riccio sciolto, no? No, noi li facevamo in zone buone, Alghero certo non nel porto, con un amico, era veramente riccio, bello, buono, anche mangiato sul momento col pane, mi col cucchiaino, mamma gli turchi, anzi ti dirò che il riccio mi piace più mangiato all'istante con un po' di pane o anche senza pane che non negli spaghetti, lo sai? Sì, perché è migliore mangiandolo così, capito? Mangiandolo nel posto. Tu quando vai e te ne al mare, te ne fai una mangiata al mare e te lo sciacqui, quando lo apri te lo sciacqui con l'acqua del mare, è molto molto più gustoso di mangiartelo a casa. Sì, perché poi sai, messa in bottiglietta si affloscia, diventa tutto liquido e lì vedi invece le, proprio le linguette belle definite. Anzi, è che noi non siamo, non facciamo papier, se no c'era da portarci lì il fornellino da campeggio, farci la pasta al momento e metterci ricci freschi, aperti al momento, e allora sarebbe un'altra gubba. Certo, lo puoi fare, perché no? Certo che lo puoi fare. Capita, buona riduisci. Antonello. Ah, Antonello è svenuto dalla fame, mi? Ho svenuto per l'eccesso di birra. No, io di la verità non ne avevo fame, no? Non gli ho detto di non cucinare niente per l'altra volta. Quindi se mi viene fame più tardi, un pezzo di acquista, un pezzo di viaggio e via. Però pensa che noi praticamente prendiamo 6:30, 7 di sera e la cena a mezzanotte. Non ti dico a che ora sto facendo colazione, io sto facendo colazione all'1 di mattina, cioè di mattina e non di notte, l'1 all'ora di pranzo io sto facendo colazione. E purtroppo non si riesce a uscirne qua, è un circolo vizioso da cui non riusciamo a uscirne. Siamo troppo spostati di fuso orario. Noi è come che avessimo il fuso orario di Los Angeles, nemmeno New York, Los Angeles, capito? 8-9 ore di ritardo. Ma se tu domani ti alzi, quando ti alzi, a mezzogiorno o all'1 fai pranzo, fai, al posto della colazione fai pranzo, e poi tiri sino alle 8 di sera, alle 8 di sera e cini alle 8 di sera. Appunto la colazione te la fai se ti alzi presto alle 9, le 9, 9 e mezza. Per esempio quando mamma lavorava, no? Quando usciva la mattina, quindi la colazione alle 8, no? Il pranzo non dico all'1 o a mezzogiorno, alle 2, perché lei usciva di scuola sai l'una e mezza, alle 2 di solito era già mezzo preparato, alle 2 mangiavamo, alle 14 sarebbe il pomeriggio, e poi la cena alle 9, non alle 8, noi non cenavamo mai troppo presto però, alle 9 era perfetto, ci accendevamo la TV in cucina, ci guardavamo il par dei film in cucina alle 9 di sera, alle 21, no? Molti usano le 24 ore nel parlare, no? Io devo specificare 9 di mattina, 9 di sera, ma già hai capito. Invece come è andata in pensione siamo andati andando e peggiorando. Eia, vabbè. Poi mi è venuto questo vizio che anche se mi sveglio alle 9, alle 10 di mattina, ma anche alle 8, rimango a letto, la sveglio e sto sempre con lo smartphone a navigare, a guardare le notizie, a guardare YouTube, però me ne rimango a letto, spesso anche nel pomeriggio non tratto, per non dire di peggio, qua lasciamo perdere. Là. Capo, è un'abitudine brutta che avete preso. Guarda, io stesso, facevo i turni e c'avevo tutti gli orari per mangiare, tutti slogati, c'avevo. E quando facevo il pomeriggio dalle 2 alle 10 di sera, alle 22, là, arrivavo alle 10 e mezza qua, qualche volta se ti trattenevi con un'amica per prendere un caffè o una cosa, si facevano le 11 e a quell'ora mangiavo quando rientravo, ero tutto sfasato. Però poi che mi sono andato in pensione e mi sono regolato. Eia. Anzi, tu quando lavoravi avevi gli orari più sfasati, poi ti sei regolarizzato. E lo stesso quella volta in discoteca, mamma mia, ma facevo proprio la vita al contrario, tutta la notte sveglio e dormire di giorno. Solo sai quanto mi scombussolava, era allucinante. E poi in discoteca andavo venerdì, sabato e domenica, notte, no? Poi gli altri giorni erano liberi, sempre tutto in nero, ui, sono dei farabutti questi dei locali. Tutto in nero, però il libretto di lavoro lo volevano, capito? Così se arrivava la finanza a fare un controllo a sorpresa, dicevano che eri in prova casualmente quella sera, da quella sera eri in prova, capito? Non se ne salvava uno, né a Rottang, né a Ruscello, né... Tutti così sono, tutti così. Purtroppo facevano così, tanto per non passare dei guai. E in quel modo non passavi né guai tu, né guai il capo, capito? Il padrone, non passava. Non era male. Solo che prima avevano un'opportunità, ne assicuravano uno, ne assicuravano... E poi gli altri tutti nominativi. Se il primo che si faceva male prendeva il nome di quello assicurato. Figurati. E poi il bello che io, detto tra noi, io non sapevo tenere un bicchiere in mano per dire no. Anche se dovevo portare ai tavoli, no, è capitato varie volte che dalla cambusa dovessi portare quando arrivava qualche personalità, no? Però loro pretendevano, pagandoti la metà, no, di avere personale qualificato, di fare di più, pretendevano, capito? E giustamente se pretendi una persona qualificata, allora la paghi il doppio però, non 50.000 lire, la paghi 100.000 lire, più la devi assicurare tutto, eh? E infatti avevano delle facce toste tutti quanti, ui, lasciamo perdere. Però sai com'è, ero giovane, mi tornava utile avere 50.000 lire in tasca a fine serata e si faceva comunque. Purtroppo era così, tutto per avere i soldi in tasca, purtroppo si andava, si faceva tutto, ma eravamo tutti così. Era da tutte le parti, a parte che tuttora così, no? Che vogliono il massimo da una persona, però pagano poco, molti meno. Perché se, non so se l'hai mai sentito tu, una persona entrare in un'impresa edile che era muratore, e tu gli la qualifica e devi pagarlo da manovale. Dice, se vuoi lavorare è così, se no te ne vai a casa. E quello lì per lavorare è dovuto farci. E prendeva un muratore qualificato, prendeva i soldi di un manovale. Sì. E lì più o meno, se ti dicevano se... Vabbè, certi erano più educati, certi dicevano se ti va bene così, se non mi... Ne abbiamo altri 10 che vogliono il tuo posto. Per dire, no? È brutto quello... Poi non ne parliamo dei laureati, ma già dagli anni 80 c'erano laureati con lauree anche importanti e più del bidello non potevano fare. Noi alle magistrali, quando ero alle magistrali, avevamo un bidello che era laureato, però non aveva trovato di meglio. E poi si lamentano, in Italia c'è la fuga di cervelli, i laureati vanno a lavorare fuori, e qua cosa fai? Cioè, è inutile che uno si laurea in legge, che ne so, in lettere e poi va a lavare per terra. Allora tanto vale non laurearsi e fare le stesse cose che... E vabbè, e Italia è un paese del malcostume, te l'ho detto. La realtà è quella. Bene, Antonello si è rientrato. Antonello sparisce nel nulla, non avverte. E vabbè, dai, adesso si è fatto un po' tardi, che ore sono? Ma non penso che guarderò nemmeno film, non ha giugana di seguire trame. Meglio un telefilm, dura 3/4 d'ora. Eh? Bello, veloce. Anzi, te ne dico una, fra. Ehi, capo, guarda, io ti dico una cosa, quando è? Sarà un 8-9 anni fa, o anche 10 anni fa, noi in cooperativa ci avevamo un avvocato e un medico, ci avevamo, non riuscivano a trovare lavoro, no, una decina di anni fa, eh? lui sono stati, ci sono stati con lui lavorando la bellezza di un annetto. Poi prima è sparito il medico e poi è sparito l'avvocato, è sparito. E l'avvocato dice che si è aperto uno studio a conto suo e il medico ha trovato lavoro a fare il medico, ha trovato, ma dopo tanto. Ehi, poi non tutti sono disposti a viaggiare, per me viaggiare è traumatizzante, è bastato andare a Milano lì per questa operazione, l'ho dovuto fare. Però a me viaggiare non piace, francamente, non piace. Vabbè. Una volta in Via Tempio, no? Quando non avevo l'esenzione del ticket, quello mi ha detto, lei è gente, no? Ho detto, ma insomma, aveva chiesto la professione, non so, un cassiere di Via Tempio. Ho detto, no, non lavora, dice, ma lì non ha mai lavorato, ho detto, no, ho detto, sì, in nero ho lavorato, ma lei mi dice una cosa del genere, io sono un pubblico ufficiale, lei mi dice una cosa del genere che ho lavorato, gli ho detto, guarda che siamo in Italia e non so se si è reso conto di come siamo messi, cioè, scandalizzarsi tanto, lo sanno tutti che qua lavori in nero, a meno che non c'è incozzi, ma incozzi di brutto me. Questo si è svegliato adesso. Allora, non utilizzi la visto, siamo in Italia, ancora utilizzi la visto, per carità, perché ce l'aveva lui un posto, si credevano tutti quanti l'avessero, alleluia. E se lo fai così non mangi, capito? Non c'hai niente, perché ti ricattano, per colpa di questi quattro bastardi che ci sono lì al governo. Ehi, guai, politici. Non c'è destra o sinistra che tenga, non... è inutile, non cambierà nulla, che voti destra, centro, sinistra, estrema destra, estrema sinistra, che non esista manco più, non cambierà nulla, non cambia nulla. Cosa ti volevo dire? Per non parlare di quelli che ti bruciano soldi, perché magari non a me, però ci sono amici che lo stesso lavorano in discoteche, un po' qua, un po' là, in pizzerie, c'era gente che li bruciava mesi e mesi di lavoro e loro speravano fino all'ultimo, rimanendo, che li pagassero, invece no, poi li bruciavano del tutto, li dicevano, beh, ciao, no, non c'è più possibilità. Facevano, bruciavano i ragazzi a rotazione, ne tenevano uno 3 mesi e non lo pagavano, passavano un altro, lavorava 3 mesi e non pagato, ma andato via, e così praticamente campavano, queste attività condizionali, campavano bruciando soldi a ragazzi diciottenni che pur di lavorare avrebbero fatto qualsiasi cosa, poi sai, i giovani si possono sfruttare meglio, no? Con la promessa di dare i soldi. E lavoravano bruciando la gente, capito? E purtroppo è così, poco da fare c'è. E vai da tutte le parti adesso arrivi a un certo punto, prima cominciano a darti un po' di acconto, poi dagli acconti ti danno una fesseria, poi all'altro mese non ti danno niente, ti dicono che non l'hanno incassato e passa un mese, 2 mesi, 3 mesi, tu mi dichiara fallimento e ti arrangi, ti rimetti anche un avvocato e ci rimetti più di quello che ti devono dare. Deia. È così la situazione. Per esempio un amico stava cercando lavoro, anche andando fuori, no? Un po' non proprio a Sassari. È solo che poi, chiedendo in paese, non diciamo il paese, questa attività c'aveva già protesti, blocchi amministrativi. E quando mai l'avrebbe pagato? Se fosse entrato a lavorare non l'avrebbe pagato mai. Ecco perché bisogna informarsi anche un po', sai, chiedendo in zona se l'attività va bene, perché poi scoprire magagne, capito? sai che come che si dice in sassarese alzato, malu pagadores. Come ti ha detto qui? Prima di travagliare, di vivere di là. Ehi, macello trovare datori di lavoro seri. Poi mi ricordo che con le borse di lavoro, le famose borse di lavoro, praticamente ti pagavano, cioè con la metà di uno stipendio volevano fare non solo che lavorassi per uno, ma che lavorassi per due o per tre. Ti passavano da un angolo all'altro, dovevi correre avanti e indietro, ti facevano fare cose che non avevi mai fatto prima, e anche lì pretendevano e si lamentavano. Ui, no, diciamo per me. Le borse di lavoro erano utili ai datori di lavoro per avere il personale sottopagato e sfruttato abbondantemente anche. Eh sì, quello già è vero, quindi vabbè, cosa ci vuoi fare? L'Italia è fatta così, è fatta. Tanto, lavoro non ne uscirà mai, non ne uscirà a questo punto. Voglio vedere dove vanno a finire, come andiamo a finire in Italia con tutto quello che stanno facendo, che devono dare, soldi da una parte, danno soldi dall'altra, da dove rientrano. Sì, poi abbiamo visto sparire tutto l'artigianato, sai, avevamo un calzolaio vicino a casa, sai, di età, una persona grande, no, però caspita, lavorava anche non bijou, mamma ogni tanto li portava a aggiustare i tacchi di scarpe, a rifare suole. Adesso vai a trovare un calzolaio a Sassari, ci devi uscire a Sassari vecchia, se esiste ancora quel vecchio calzolaio lì. Tutto calzolai, piccoli artigiani, fabbri, no, che c'avano un garage, ti saldavano roba, tutto chiuso, tutto. Poi del centro di Sassari non ne parliamo, prima le vie del centro, vicino a Piazza Tola, Piazza Cosera, tutto negozietti di abbigliamento, di scarpe, articoli per la... Adesso è quasi tutto chiuso, è uno schifo, uno schifo, uno schifo. Partire da Auchan, come è arrivato Auchan già che vendeva abbigliamento, scarpe, roba da mare, tutto, più la crisi, più tante cose, non c'è più niente lì, non c'è più niente. È una desolazione scendere lì in via, adesso non mi viene la via, o via La Marmo o via Mercato, non mi ricordo qual è lì. Piazza Tola l'hanno rovinata, prima almeno c'erano le bancarelle, ogni mattina le bancarelle, poi con la storia dell'isola pedonale, cioè cosa me ne affutti a me di andare in Piazza Tola a passeggiare a vedere due billoi, era meglio quando c'era il mercatino la mattina, compravi un po' di tutto, vabbè, già lo sai com'è, no? Conosco bene Sassari, conosco Piazza Tola e tutto. E perché adesso il mercatino lì non lo fanno più a Piazza Tola, non c'è più nessuno? Guarda, mi pare è che io non passo da mesi, ho sentito dire che ci sono due, tre bancarelle, proprio due, tre, quattro bancarelle. Prima era tutta Piazza Tola ricoperta di bancarelle, adesso due, tre, quattro, proprio è la guerra dei poveri, Offra, la guerra dei poveri. Infatti non fa più andare, cosa vado a vedere due bancarelle, ui. Poi questa mania delle aree pedonali, ZTL, cioè in una città come Sassari che è un buco di... c'è il centro, è un buco. Cosa fai la ZTL per chiudere via Cagliari, via Brigata, sono quattro vie in croce, via Rico Costa, però puoi fare a Milano dove c'hanno grossi centri storici con cose storiche, cosa ne so, tipo Piazza Duomo, già hai capito, no? E no che fanno ZTL, piste ciclabili, qua si credono di essere a Londra, a Parigi, a Berlino, a Milano, non lo so. Sì, già me lo ricordo io Piazza Tola, l'ho pulito lì, di tutto il piazzale di Piazza Tola, poi scendendo lì sino al mercato del pesce, e l'altra piazzetta che c'era di fronte al mercato del pesce, quelle lì le pulivo tutte io, e per un annetto quasi le ho pulite, però lavorando, allora si lavorava per il comune, nella Mondetta, era un ragazzo allora, e non avevo lavoro, e stavo cercando di entrare nel comune, nella Mondetta, e invece poi non ci sono riuscito e me ne sono andato a fare altro tipo di lavoro, me ne sono andato. E lì lo pulivo sempre io. Poi da lì scendevo anche un pezzo del corso, scendevo e facevo un giro. Avevo, io entravo le 5:30 la mattina, entravo, alle 8:30 me ne stavo già andando. E poi detto tra noi, a me piaceva più, presente il mercato del pesce, no? Lì, vicino al ponte Rosello, no? Via Corso Trinità. A me piaceva più come era una volta, rustico, sentivi il proprio odore del pesce nell'aria. Adesso hanno fatto tutto per fiagghini, tutto luce a giorno, tutto asettico, tutto coso, no? E poi leggi sul giornale che avevano beccato alcuni venditori pesce mal conservato, mezzo fradico, ricongelato. È inutile che vuoi far apparire tutto bello e poi ci sono alcuni venditori che sempre sono disonesti. C'è tutta questa necessità di fare queste opere faraoniche per un volgare mercato del pesce, la necessità non ce l'ho vista. Poi uno può dire, ma le cose sanitarie, è inutile che lo fai tutto asettico e poi ti vendono il pesce fradico ricongelato mille volte, no? Siamo sempre lì. Capo, no, a me piaceva più come la prima al mercato, mi piaceva. Se entravi lì sembrava entrare al malincuno, tutti a voci lì. Poi c'avevo un amico, io quando andavo a prendere il pesce andavo dall'amico mio, andavo da Tonino Simula si chiamava, che andavo sempre da lui a prendermi il pesce, perché sapevo cosa mi dava. Poi il pesce cattivo magari lo davano anche prima, perché una volta abbiamo preso delle orate da fare al sale, ti parlo di tanti anni fa, ed era puzzolente questa orata, sul momento non te ne accorgevi perché c'era il ghiaccio intorno, ma una volta messa a casa un fiago di cadavere, c'era da tornare indietro e sbattergli la faccia, però prima era bello, eri gomito a gomito con le persone, no? Mi piaceva più questo aspetto del vecchio mercato, adesso tutto illuminato a giorno, ma dico solo ma. Sì, già è vero, lo diverso era. E poi lì quando c'avevi un amico, se non ce l'aveva lui il pesce come si deve, chiamava, dava la voce all'amico suo in fianco. Dammi, fai due chili di ghisso, dammi un chili di giardina, tre chili di giardina, via di Sai Baidu, e te la più fresca, compreso. E la sua era magari una prenatia che veniva a vedere prima. E poi bisogna anche conoscere, diciamo, il venditore buono, certi se ne fregavano, ti davano le porcherie che avevano, insomma. E ci mettono sempre in mezzo questi motivi sanitari, ma anche nei ristoranti ne fanno di tutti i colori, se tu vai a vedere in certi ristoranti le porcherie che c'hanno nei frigoriferi o nelle cucine, poi anche Striscia la Notizia ha fatto vedere che andavano a pigliare il pesce in punta di, no, certo, non vicino, magari doveva andare nel paese vicino, no? E per trasportare il pesce bisogna avere, non so, il fiorino, quello che è col termostato, cioè deve essere una cella frigo, comunque devi trasportarlo nel ghiaccio, insomma c'è una modalità per trasportare il pesce anche ai ristoranti, no? Invece vedevi i ristoratori ci mettevano il pesce senza ghiaccio e niente nel cofano, con la macchina sotto il sole con 40 gradi magari. Poi mezz'ora, tre quarti d'ora arriva al ristorante e il pesce era già con l'occhio bianco. Figurati, sì, ne fanno di porcherie nei ristoranti, ma non ristorantini bettole, no? Anche ristoranti così che fanno certe porcherie e magari tu non vieni a saperlo, capito? Poi stai male e chissà come mai. Sì, ma quello non facevano solo quelli lì, no? Anche le pescherie andavano, mettevano in cofano, andavano alle barche lì a Porto Torres, io li vedevo, scaricavano le casse dentro un cofano e partivano. insulti, di tutto si caricavano e partivano. Mentre adesso se ti beccano quella roba in macchina sono cavoli amari. Infatti adesso tutti quelli che hanno la pescheria, tutti hanno il carrellino già con il frigo, tutto il carrello frigo c'hanno, tutti quanti, perché non si può più spostare niente senza frigo. Eia. Guarda, Striscia la Notizia era un mese e mezzo fa, mi pare, che l'hanno fatto vedere, però non da noi, in continente, no? Tu vedevi lo stesso pesce messo in imbustoni, senza ghiaccio, né nulla, messo nel cofano della macchina, magari era pure estate, sai, con la macchina a budendi, e figurati cosa ne usciva fuori. Oi, oi. Vabbè, purtroppo... Poi il NAS quando arriva però fa danno, quando il NAS trova qualcosa fuori posto fa danno grosso, multoni, e se non gli chiude il locale pure, a certi. Quelli non scherzano, quelli lì. Poi da una parte non fanno male, fanno bene. Però l'unica cosa che è, sì, io non dico di multare una persona, però che aspetta, multala moderatamente, ma quelli vanno a rovinarti del tutto e ti fanno multa che non riesci neanche a pagarli. Quelli purtroppo castigano forte, perché sai perché? Magari gli fai una multina così e quello dice, vabbè, mi pago la multa, me ne affucco e continuo a fare come faccio, no? Però è vero che certe volte ti costringono a chiudere, cioè c'è anche, ci dovrebbe essere una giusta via di mezzo. Vabbè che loro te lo dicono, no? Cioè quelli del NAS dicono ne va della salute pubblica, cioè per cibi mal conservati tipo botulino uno ci può anche rimanere. E poi vai a risalire che era quello, perché certe tossine non ti prendono subito, può passare anche una settimana e lì è difficile risalire le cause dell'avvelenamento, purtroppo. Però vedi che lo faccia magari una bettola, da una bettola te l'aspetti pure, no? Però che te lo faccia un ristorante anche di quelli pluristellati, mi. E lì è più grave ancora, perché lì cioè, paghi molto ma devi avere roba di prima scelta, ben conservata, ben trattata, ben cucinata. Sì, e poi il pesce, specialmente il pesce è la cosa più maledetta che c'è, perché se guazza si intossica subito, il pesce è peggio della carne. Eia. Il pesce è molto delicato, purtroppo, mamma mia, già quando vai a pescare a canna, minchia, che lo metti in macchina, magari non c'è il ghiaccio, già, magari mezz'oretta di viaggio in estate, già ne risente di brutto, a tornare da Alghero a Sassari, per dire, vabbè. Poi cosa ti volevo dire, sempre di ristorazione, e ne fanno di tutti i colori. Adesso un'amica che lavorava in un posto X, no? Tipo rosticceria, no, le cose si trasformavano di giorno in giorno. Un giorno era, che ne so, piselli in verde, in umido, il giorno dopo diventavano supplì, il giorno dopo lo trasformavano in un'altra cosa, infatti certe volte mi dicevano, non comprare quello, per carità non prendere quello, perché era roba trasformata di giorno in giorno, cazzo che schifo. Quello già è vero, va bene, va, invece sono già le 9 e 8 minuti. Adesso cominciano qualche film, li guardo, perché se poi lo guardo cominciato non mi piace più. Ehi Afra, anch'io lo penso così, io quando perdo già 10 minuti o 4 ore il film non ne guardo più, perché ho già perso la premessa, e quindi dai, ti saluto rapidamente, poi già sentiremo nei giorni a venire, tanto non sto uscendo né niente, quindi... Va bene, dai, la chiudo qua. Anche io mi accendo la TV. Ciao Fra, buona serata, buon tutto, ci sentiamo alle prossime, ok? Ciao ciao. Via, ciao ciao, ci sentiamo. Pomponio, sei rientrato per un saluto veloce? Nulla, va bene, ciao a tutti gli ascoltoni, ciao ciao ciao. No, a quello Antonello adesso c'è riesceso, il dito dentro il collo della bottiglia, non riesce a toglierlo. se non è già in coma etilico lì. Ciao ciao. Ciao ciao ciao, buonanotte, ciao.